Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Il 17 aprile del 1919 nasceva a San Joaquin de Flores l'iconica e irriverente cantante Chavela Vargas, regina della musica ranchera messicana. Memorabili i suoi concerti e indimenticata la sua figura avvolta nel riconoscibile e inseparabile poncio rosso. Uno sguardo alla sua gente, intrisa di colore, di folklore, e uno sguardo appassionato alla sua Frida Kahlo, pittrice amata e inseguita. Donna forte, combattiva, anticonformista e anticonvenzionale. Un artista a tutto tondo, emblema di quel mondo in cui l'arte si fondeva con l'esistenza, con i suoi valori più reconditi. Con la sua più seria delle spregiudicatezze, la più volitiva delle leggerezze. E allora, eccola, la voce di Chavela Vargas in Llorona. Pero cariñoso, todos me dicen el negro Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante, pero sabroso. E a proposito, con questa voce vi diamo il benvenuto a una nuova puntata di Voice Anatomy. Siamo in diretta dagli studi di Roma di Radio 24. Sono le 14:34 primi e 9 secondi e per la prima volta sono in attesa dei nostri primi ospiti che stanno per arrivare. Ma nel frattempo è arrivato un amico di Radio 24 che è Gianluca Nicoletti che... Eccolo, eccomi qua, al volo. Eccolo, no, non sei tu l'ospite, anche se vorrei che tu fossi l'ospite. Vabbè, sono qua, se ho tempo, sì. Lo spazio, il vuoto, non lo so. Posso fare lazzi, intrallazzi, quello che vuoi. Questa è una voce, questa è la voce, è riconoscibilissima, di Gianluca. Invece al telefono, visto che ci stanno raggiungendo, ci sono Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Pronto? Guarda, siamo su 35,70. Sì, siete sul taxi, ho capito. Devono suonare, il portone è chiuso sotto, devi dire la signora. Digli. C'è la signora che deve venire ad aprire. A domenica. Ci siete? Siete? È già caduta la linea. Perfetto. Stanno sul 35, che non è l'autobus. Gianluca. E i taxi romani. Senti, come vivi il tuo rapporto con la voce? Ma la voce, non lo so. Guarda, la voce è qualcosa che non mi appartiene. Non sono un doppiatore, è una voce schifosa, mille problemi non di dizione. Non è così, la tua voce è molto evocativa invece. Sì, vabbè, sai. Ecco, come il gobbo di Notre Dame, lo vedi e ti rimane impresso. Quello di Disney, no. Sì, no, invece la tua voce denota grande professionalità. Cioè, io prima di conoscerti ti ascoltavo. E non è che sono uno che sta attento. Sì, ma come riconosci uno che ha tre gambe? La stessa cosa. È una voce sgradevole, lo so benissimo. Ma hai lavorato sulla voce? Non è così. E adesso non c'è bisogno. Non è ruffianeria, non è piaggeria nei confronti di un amico. È soltanto che quella tua voce, quando racconti le tue storie, le tue cose, io ci credo. Ed è quello che dico sempre. Non è la bella voce che fa il personaggio, eccetera, eccetera, ma è la voce usata nel modo giusto per veicolare certe cose. Sul treno io ci sto volentieri con te. Ti confesso una cosa, io dalle prime classi degli elementari ho avuto il problema con le maestre che volevano insegnarmi, erano gli anni 60, uh-huh, a non fare l'R moscia. Beh. Quindi ho sofferto, già mi sono sentito un diverso, poi ebbi modo di conoscere la diversità sulla mia carne, ma molti decenni dopo. Io per anni mi sono sentito un menomato, perché ho questa R, mi prendevano tutti in giro a scuola, poi alla fine me ne sono fatto una ragione. Ho sempre saputo non avere una voce ben emessa, perché squittisco, strillo, sono emotivo, non ho mai lavorato sulla voce. Quando cominciai casualmente a fare la radio negli anni Ottanta, grazie a una finta raccomandazione di uno zio arcivescovo che non avevo, tutto pensavo nella vita, meno che avrei fatto la radio. Pensavo mi coltivo altre cose, che ne so, studio filosofia. Mi coltivo un campo. Sì, ma tutto, sì, mio padre faceva l'agricoltore, ecco. Ma tutto pensavo meno che usare la voce. E ho cominciato a usare la voce. I primi anni in Rai mi dicevano, fai qualche corso di dizione, hai Rai anni Ottanta. Ma certo, non è la dizione che salva la voce, la dizione salva la pronuncia, cioè colonna, disposto, posto, andrebbe, direbbe, ma è l'impostazione vocale che è quella che poi dà il là vero alla voce. Ma ti ripeto, la tua voce è molto bello sentirti, uno ti ascolta volentieri. Vabbè, questo okay? È già importante. La R moce, poi sai che i bambini sono cattivi, Beh, no, in quegli anni erano molto crudeli. Quando c'hai un cognome particolare te massacrano, se c'hai una cosa fisica particolare te massacrano, lo sai perfettamente. Per cui l'R. Moscia in quel periodo storico magari non faceva parte della cultura. Quando dovevo dire poesie tipo lo spirito guerrier che entro mi rugge, cioè già tutti a ridere, capito? Una cosa del genere. Lo spirito guerrier, sì, è vero, poca miseria. Tu di dove sei di origine? Sono perugino. Perugino. E non hai per niente la calata di Perugia. Sì, perché a casa mia non parlavano perugino. Erano trapiantati a Perugia, erano tutti professori. A tavola parlavano francese per non far capire a noi bambini. Se dicevamo una parola in dialetto ci picchiavano. No. Però beh, un'infanzia serena, ne sei uscito, no, bene, crudelissima. Sei uscito veramente bene, sì, questo lager infantile. Sei d'accordo con me che a scuola ci vorrebbe, a parte inglese si studia bene, francese lo studi con le pronunce giuste, ma l'italiano perché no? Perché non uno studio della vocalità, di questo strumento che abbiamo proprio per permettere poi in futuro ai nostri figli di essere i futuri manager che sappiano comunicare, che sono i prossimi rappresentanti di qualsiasi cosa vogliano, i prossimi politici che sappiano affrontare con grande garbo. Per due ragioni penso. La prima fondamentale, che ci vorrebbe una sensibilità da parte degli insegnanti, e già gli insegnanti dovrebbero parlare italiano e questo è un problema. Seconda cosa, bisognerebbe avere un approccio diverso con i ragazzi, dirgli: visto che nella tua vita ormai tu fai dei tutorial su YouTube di come ci si pittano le unghie, di come, esatto, ci si gonfiano le tette, di come si studia per craccare il computer dell'amico e via dicendo, e visto che lo fai in maniera indecente, perché parli orrendamente come mangi orrendamente, quindi si vede anche che hai dei problemi alimentari, ecco, probabilmente è meglio che cominci a parlare una lingua più comprensibile. Esatto. Se no, quando diventerai manager ci saranno delle persone che dovranno farti fare dei corsi e costerai tanto la tua azienda, meglio lo fai da piccolino. Allora, siamo d'accordo. E il mio amico Nicoletti c'entra, a parte che eravamo già a questo appuntamento, ci siamo incontrati a Gaeta per questo incontro con i ragazzi di tutta Italia. Ci hanno incastrato entrambi. Ci hanno incastrato, cosa, diciamo la verità. Ci hanno incastrato la mattina alle 6:30. Vieni a prenderti un autista, vieni a prendere un esorcista a quell'ora. E ho capito, un autistico. Dico, vabbè, tanto ce n'è uno in casa. Invece no, era proprio un autista. Resti qui con noi. Signori, ho grande piacere di presentare la bellissima Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Altrettanto bello perché abbiamo gli stessi capelli. No, ma io faccio tipo per te, non posso fare altro. Siamo quasi fratellini. Esatto. Anche perché abbiamo delle donne vicino che picchiano non poco, per cui cioè, dobbiamo non tanto solo con la voce. A tutti, buongiorno a tutti, ciao, sono Simona. Ecco, ecco, tanto, avete avuto hai già detto che è un programma sulla voce, allora io sto dando il meglio di me, spero. Ho capito, ma non è mezzanotte e 40. Va bene, questa mezzogiorno è la voce di domenica, no, 24, un po' più tardi. Va bene, allora metti, ti faccio la voce delle 12, dai, delle, ecco, 14. Aspetta che ti mettono bene il microfono, che si è, eccolo là, adesso ce l'hai. Caro Nicoletti, abbiamo due grandissime esposte. Oggi c'è un grande giornalista vicino che mi fa da tutorial. Ma grande, dai, grande giornalista, su. Non beh, un grandissimo, po', veramente. Grande. Beh, sono dei pochi intellettuali viventi. Esatto. Ecco, con questo mi hai segato. Hanno appena fatto un'indagine di marketing, hanno detto che il mio livello è troppo alto, sono troppo difficile, deve essere più leggero. Vabbè, devi pagare il bagaglio della qualità. È una vita che lo pago. Lo so. Guarda, arrivano già i primi messaggi. Diglielo tu, Nicoletti, la tua voce nel racconto è avvincente. Ciao carissimo Pino, Gianluca Nicoletto vuol fare il modesto, diglielo tu che è una bella, una voce giusta. È una voce memorizzabile, ma poi soprattutto memorizzabile, è quello molto che incisiva. Dice. E poi sì, è quello che dice. Esatto. Non è io ho una voce orrenda, però. Sì, adesso. Ma no, ti cominciate giuro, quella mia vera. Ma no, quella la mia voce vera non è questa. Questa è quella che mi ha imposto mio padre, la vita. Perché diceva: fai solo i cartoni animati. Allora vai a prendere freddo, fuma e stancati. Come vai a prendere freddo, fuma e stancati? No, ma io consiglio paterno e non ti dico il resto, esatto, perché l'orario non lo concede, no. Sai che in America mandavano i provini con 1, 2, 3 con i, sì, numeri, no? Certo, mandano i provini proprio perché cioè, ma questa è la figlia di Izzo, una super raccomandata, no? E allora lui mi diceva: fuma stasera, stanotte, mi raccomando, prima di venire al provino. E poi io arrivavo, avevo la tosse, tutto, e lui diceva: ok, ci siamo. E e questo è stato il motivo per il quale io sono riuscita a doppiare le attrici. Lì hai cominciato a doppiare Humphrey Bogart tu, dalla sì. Ma pensa che io ho doppiato Debra Winger, che insomma quando ci siamo incontrate le ho detto io sono la tua voce, le ha detto no, non è possibile, ti prego, sei troppo femminile, perché lei è perché Debra ha una voce un po' così. La potevo fare io Debra, sì, la leggevi bene, non hanno chiamato, no, perché hai fumato poca, no? Devi fumare un po' di più. Tognazzi, tu invece col doppiaggio che hai, no, ma sai, io sono avvantaggiato perché vivo da 30 anni in una famiglia di doppiatori che hanno una grande azienda eccetera, non mi hanno mai chiamato, ma con turno di Bruseo, no, ho fatto un elefante una volta, no, hai fatto un leone, ah no, ero un leone, ero un leone, perché non fai tardi la sera, non ti droghi, non fai quelle cose che per vincere ho smesso di fumare da 10 anni purtroppo. Esatto, devi cominciare a fare un po' di cose brutte, fatte gonfiate botte. No, allora Ricky è bravissimo, ha un po' di milanesismo nella voce, però il nord non dà fastidio nel doppio, guarda, dai, il doppiaggio leggero, è tra virgolette romanesco, diciamocelo. No, non è romanesco, nasce a Roma, sì, sicuramente, ma come la cadenza base. La cadenza, dici, sì, pensi ad Amendola, ti ricordo che sono il conduttore della trasmissione, quello che sta veicolando il tuo successo quotidiano. Scusa, ma Ferruccio Amendola, sì, no, che Teatro Quirino, sì, ma Teatro Quirino, sì, ma vedi che ce l'hai, magari fossimo, sto pensando a Frida Kahlo di mia moglie, ma come, ma no, il Quirino è per testi più intellettuali, ma no, ma che stai dicendo, no, no, è vero, è vero, la Sala Umberto accoglie. Anche sono stato anch'io con Ciuffoli ultimamente. Testo di Simona Izzo. Sì, sì, ma il testo l'hai scritto un grande tu. Successo. Figli, mariti, sì, amanti. Tutti si meravigliano. Non capisco perché. Ho scritto 32 film. Ma vengono, si divertono, ridono, vengono in camerino. Ma sai che siamo stati veramente molto bene. Ma chi l'ha scritto, Simona? Dai, scusa. No, ma a parte gli scherzi. Chi ma l'ha ma scritto? Non è possibile. È così, purtroppo sempre, il razzismo intellettuale dei maschi nei confronti delle femmine quando infatti i figli, mariti, i capelli amanti, di biondo. Sì, il maschio superfluo è il proseguimento sì. del no, titolo. Non è il proseguimento, è proprio, come dire, la cronaca. Non è lui il maschio superfluo. No, non sei tu, anche se vivi in un gineceo vero, praticamente, perché ginecocrazia si chiama. Come si chiama? Ginecocrazia, vero Nicoletti? Perché ginecos è la femmina, e quindi sì. ginecologo. E qui mi sono portato il tutor apposta. Io stamattina, meno male che Gianluca sta qui con me, tu cavi bene con greco. Io avrei, ma sì, ho studiato greco, ma ricordo ben poco. Avrei una... Anch'io. Non dubbio, ma non so se esporlo, visto che no, siamo prego, in Francia. Possiamo andare no, nel primo blocco farlo. In pubblicità, vero? No, un minuto, prego, quanto dura? Esprimi il dubbio e poi dopo esprimi il dopo dubbio e andiamo in pubblicità. Allora, c'è una leggenda metropolitana che non so se è dicibile in questa fascia oraria, riguarda le cantanti liriche e alcune operazioni preliminari prima dello schiarimento della voce necessaria, e sì. sua sorella che non è fumare proprio una sigaretta, ma qualcosa che non si può dire in questa fascia oraria. Corrisponde in realtà a questa pratica? Lo confermo, no, no, io lo confermo. Come lo confermi? Ma come la sua sorella fa la cantante lirica? No, no, scusate, io lo confermo. Ma se non mi fate finire, c'è il confronto Guirino Salumberto, una caffè di niente. Lo confermo per quanto riguarda la lirica, perché lì l'acuto, cioè serve, diciamo così, un'applicazione diversa. Per quanto riguarda invece la quotidianità soli. Del doppiaggio, così il basta tenore, a meno. Il tenore non ha bisogno no. di questo esercizio. No, a me mi fu raccontata di prima mano da un albergatore che ospitava un noto soprano, di cui non posso fare il nome perché certo. è vivente, che prima di andare naturalmente Fritz al palco aveva questa sì, uso sì, e doveva sì. fare necessariamente questa pratica con il suo partner, anche lui cantante lirico. Certo. Ma di solito ci sono anche i cori per questo che certo. possono agevolare. E si chiama orgia quella, non si chiama più coro. Noi ci sentiamo tra poco, levate i bambini, Radio 24, Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Come promesso, signori, bentornati in Voice Anatomy. Pino Cenio ai microfoni di Radio 24. Alla mia destra Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che sono già da una settimana al Teatro Salumberto con questo bellissimo spettacolo sulla coppia e sul figli, mariti, amanti. Salumberto, dobbiamo andare a breve perché sì, sì, abbiamo sì, lo spettacolo noi esatto. alle 17. Alle 17, anch'io penso. Direi che e finisco alle 17:05. Tu sei al ghione, no? Sì, sì, va bene, no, ma siete voi i protagonisti. No, ma tu sei al ghione, purtroppo non ti possiamo venire a vedere, ma no. tu fino a quando ci sei? Fino a oggi. Oggi volevo dire, però io ne ho visti tanti dei tuoi spettacoli, tu non sì. hai tu non ancora hai visto uno mio dei nostri spettacolo. Va bene, ma non fa niente, forse figli, mariti, amanti, sì, però ho visto tutti i film del mondo, cioè, ho capito comunque, ma è diverso, è diverso comunque, sai, oltre che di una coppia davvero. Diciamo che si tratta di io ho un figlio omosessuale che in fondo è stata sempre una mia aspirazione. Come donna, come Simona Izzo, sì, dici? Perché, sì, come donna. Sì. Perché un figlio sarà contento anche Francesco oggi. No, ma voglio dire, Francesco è un etero. Parliamo di Francesco Venditti, ovviamente. Francesco Venditti è un etero convinto, ha un curriculum molto ampio di mogli e di figli. Ma questo vuol dire anche tutto un... Allora, il vantaggio di avere un figlio omosessuale, adesso spero che le mie nuore non siano, perché sono tante, non siano... Nel frattempo hai un marito, così, però non è un problema questo. Andiamo no, no, non ti spiego. Allora, un figlio omosessuale diverso, sta molto vicino alla madre, ma adesso sembra un paradosso. In realtà, allora, ho ideato questa storia di cui noi siamo figli, padre e madre di un figlio omosessuale. Lui è un omofobo, apparentemente. Io sono la madre che purtroppo ha questa ars manipolatoria, una madre divoratrice, una madre tigre. Però una madre, alla madre non si, della mamma non si può fare a meno. E l'altra coppia che invece creerà dei problemi all'interno della... Giuseppe Manfredi, che è un noto commediografo, che con noi ha già recitato nei film, ma è la prima volta che viene scritturato come attore, in teatro, e poi Chiara Tomaselli, che è una bellissima e bravissima ragazza napoletana, molto sexy. Sì, infatti io ho avuto molti dubbi prima di metterla in scena, cioè di dato che era troppo bella. Non essendo un'opera lirica, potete stare tranquilli, sì, insomma, non Rigin non chiederà nessun tipo, e neanche lei. Il compagno, diciamo così, in scena è Manfredi, quindi io non sarei stato fuori dai giochi comunque. Per fortuna. Detto questo, per un certo momento si presume anche che tu sia l'amante di Chiara, però di fronte nella a questo storia, io ti dico una cosa, la mia soddisfazione come autrice, come commediografa, non lo so, scrittrice, sì, vabbè, ma sai, nessuno me lo riconosce, ma va bene così. Ma che io non credo, no, ti garantisco, tutti si chiedono, non è un mio problema, è che prima ho scritto i film per Tognazzi, allora tutti pensavano che li scrivesse lui e li firmassi io, poi ho scritto i film per Bolognese, chi lo scrive, così, ma perché lo capisco, c'è sempre un razzismo. Io ho lo stesso problema con Scorsese e De Niro ogni volta che ci sentiamo, io sono stanco, ma anche il mio fatto di essere un sex symbol, sono un po' stanco, cioè vorrei io, questo è il tuo stesso problema, io vorrei essere considerato anche un cervello, non più un Hai uomo ragione. Da possedere, certo. Ed è questa condizione, sì, questa condizione di vita che mi crea dei problemi, come Simona. Io adesso c'è uno psichiatra, appena esci di qua che ti sistemano, ma tanti, ma non c'è stato niente da fare. Il problema, ci vorrebbe un mago, un psichiatra, ma il problema di una donna è che finalmente io sono diventata una donna anziana, finalmente ho 60 anni e finalmente ho un po' più di autorità, credevo, e invece ma al di là di questo, io ho scritto questa commedia 2 anni fa perché ci hanno detto: perché non fate teatro? È la prima volta che fate sì, teatro, siccome insieme. Però eravamo un po' al vero. In realtà è la seconda, sì. L'abbiamo fatto qualche anno fa. La prima è apocrifa, non... No, era un testo di Berkoff, un provocatore inglese, un angry man. Sì, no, lo so perfettamente. Proprio con Nicoletti, prima di cominciare la trasmissione, parlavamo di Berkoff. Sì, ci direttavamo a recitarlo assieme. Sì. Beh, è cosa nostra che facciamo a porta a porta. È giusto. Abbiamo portato in scena Kvetch, che era un testo molto duro. Questo sì. Durissimo e al Parioli tra il primo e il secondo atto praticamente si dimezzava la sala. Gente non reggevano la durezza, non reggevano la durezza. Non c'è più l'abitudine oggi, devo dire, esatto, perché poi però anche noi nel nostro piccolo comunque noi nel nostro piccolo affrontiamo dei problemi sì, ma magari con la leggerezza dovuta, giusta, no, leggerezza non vuol dire superficialità, vuol dire capibile alla persona, certo, che sono di fronte, dove si specchiano, a parte non si riconosce mai la gente, riconosce sempre l'amico dell'amico. Certo, no, ma da noi si questo... sono riconosciuti tutti, sì, abbiamo già un paio di cause in corso. Di quelli a cui ci siamo ispirati. E no, detto questo, la cosa che mi ha dato soddisfazione è che avendo scritto questa commedia 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, quando è andata in scena, poi ha debuttato a Fermo il giorno 23 di gennaio. Il 23 di gennaio le coppie omosessuali e etero, anche le famiglie arcobaleno, sono scese in piazza per dimostrare, appunto, per chiedere il matrimonio, per avere insomma i diritti civili. Quindi mi sembrava che la nostra piccola commedia fosse contemporanea a ciò che stava accadendo. Ecco. Beh, quindi sì, mi è sembrato comunque tutto... è una situazione, io poi conosco una situazione del genere, non ne posso parlare, che è molto vicina alla mia vita, per cui evito di mettere in piazza certe situazioni, ma sono molto delicate. Soprattutto tu lo vuoi, eccetera, delle madri antiche, certo, scoprendo l'omosessualità del figlio, si sentono loro come se avessero fatto qualcosa di sbagliato nei confronti del proprio figlio. Dipende dalla madre, generazione. Sì. Esatto, è venuta una madre da noi dietro il camminino, ci ha ringraziato, mi sono divertito molto, eccetera, e poi è scoppiata a piangere. Dice: però io non lo so, perché qua su e giù, insomma. Ci ha raccontato che lei viveva questa condizione, certo, e non era riuscita ad accettarlo. Insomma, quindi io invece penso che, ma non lo dico né da un punto di vista ideologico, lo dico proprio da un punto di vista sentimentale. Se mio figlio amasse un uomo, se mia nipote amasse una donna, io l'amerei insieme. Hai detto la cosa giusta, amare insieme a loro. Se io amassi un uomo, amore. Guarda, mi dispiacerebbe meno che se tu amassi un'altra lo donna. Lo sapevo. Sinceramente. Sì, però contrastare l'amore di un altro uomo, no, non è successo, sono testimone. È più difficile contrastare. Stare a quel punto perché un amore lui con un'altra delle... donna, donna contro donna riesce a combattere, ma no, quel salto della barricata. No, vedi, no, perché lui dà delle cose che io non gli posso dare e gliene do altre. Beh, oggi la tecnologia fa miracoli, da questo punto di vista. Scusate, no, ma tu sei il mio grillo parlante. Come... No, scusa, ci sono delle protesi che colmano queste lacune. Esatto. Se proprio vogliamo... Gli altri conducono a coppie certe situazioni anche di successo. Noi non possiamo avventurarci in questa trasmissione. Mai. Potremmo farlo. Se la trasmissione avrà un altro giusto impiego, ci sarà questa avventura. A chi devi dire grazie, Simone? No, a Ricky. No, amore mio, no. A Ricky che mi ha molto ispirato, perché Ricky è molto che intelligente. Insieme, Ricky? No, lasciamo stare. No, dai, va bene, sono almeno 30 più divertenti. No, più meno di comunque. Ma sempre, no, 31, no, sono, che sono bello. Un po' meno. No, più di 30 anni. Dico. Ma no, lui dice meno, ma non so, si fa no, degli te scopi. Meno ha detto, te meno. Lei esagera, tende sempre ad arrotondare, capito? Lo dico anche nella commedia. Già a 27 era zumpata subito a 30, capito? Adesso. Lui dice che 3 anni di vita senza di me gli spettano di diritto, sono 3 anni in meno di arresti sentimentali così. Domiciliari, diciamo. Arresti sentimentali è bello, bellissimo. Come la vedi questa coppia, Gianluca, di grandi professionisti, di grandi coppia, io la conosco nella quotidianità e so che c'è una coppia, grande ironia e grande divertimento. Beh, sai, sono hanno un grande privilegio a cui voglio di poter molto continuare bene. A rappresentarsi come coppia sul palcoscenico. Diluisce, non so se non è il loro caso, sicuramente la necessità è poi di doverla vivere realmente nella propria vita concreta, personale. Quindi hanno un grande privilegio rispetto al mondo. In realtà arriviamo da due case diverse, andiamo sul palco, facciamo la coppia e poi dopo tutte e due con una storia familiare importante. No, ma noi ci siamo protetti vivendo insieme, perché io forse mi sarei innamorata di un altro e lui di un'altra. Beh, però vabbè, c'è stato il cielo. È successo in precedenza, no? Ma noi ci siamo protetti intanto perché la finzione ci ha protetto, sì, come diceva giustamente, perché due persone che vivono insieme 30 anni forse si annoiano, ma noi non viviamo solo la nostra vita, viviamo la vita dei nostri personaggi. Esatto. E quindi litighiamo, facciamo delle litigate. Com'era il matrimonio, una croce che va portata in treno, ecco, noi in questo caso non abbiamo un amante, spero, credo, però abbiamo sempre sì, l'amante, il nostro lavoro, come è l'ultimo film che stiamo facendo, esatto, non ci abbiamo tempo. Però a proposito di ringraziamenti, prima che finisca la No, abbiamo un altro blocco, fra poco andiamo in pubblicità, fra un minuto dopo torniamo. Lo ringraziamo, sennò poi vi libero il tempo. Va bene. No, ti do subito la parola. Tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, sono le 15. In questo momento tantissimi messaggi, non ho dato neanche il numero, mai siete degli affezionati, 349-238-6666, sono gli arresti sentimentali da molti anni e sto benissimo mentalmente e fisicamente. Che belle espressioni, arresti, ha fatto successo questa, arresti sentimentali, insomma è un titolo bellissimo, è del vostro ovviamente. È carino. Fate parlare Nicoletti, io me ne sono innamorata del suo cervello, i suoi pensieri, tutto, ma la sua voce mi fa sognare. Vedi, uno fa tanto per la voce e poi si innamorano di te. La cadenza, i toni, l'ironia, tragica, fatta suono. Ammazza, che bello. Ma sì, ragazzi, gli ascoltatori di Radio 24, io non posso siamo dire a un certo livello, cose che la tu non sai come, ma arrivano telefonati, che certo, cosa sta dicendo, certo, il greco di arriva, questa non è il bugiardello, ma il cioè mi ammazzano, sì. Sì, no, c'è esaltazione ma c'è grande attenzione. Meno male. Unico tra gli unici, grazie di averlo invitato, Patricia da Monza, e tanti altri complimenti anche a Tognazzi. Però Ricky, stavi dicendo una cosa prima, no, ci dimentichiamo, per ringraziare. Esatto, no, no, ma che giusto, gratificare. Volevamo ringraziare Angelo Tumminelli, il nostro produttore, perché ci ha dato fiducia. Tu sai quanto è difficile debuttare. Io mi produco da me, per cui so quanto, certo, è difficile andare in teatro con un testo italiano contemporaneo, inedito, eccetera. È molto più complicato. È stata ancora una settimana alla Salumberto? No, vero? Fino alla fine del mese, ancora due settimane. Sì, sì, bene, sì, ma è una lunga delitura, bella. Bisogna prenotare in fretta perché i posti stanno finendo. E allora Nicoletto, per andarli a vedere, assolutamente, prego. Io finisco oggi, qualcuno non c'ho, no, scusa, poi ci devo andare. Vi prometto molte risate. E poi, a proposito del tuo programma, direi che è un teatro fortemente legato alla voce, nel senso che è un teatro di conversazione, sì. Cioè noi conversiamo dibattiamo. Un po' come a cena tra amici, quel film, diciamo, francese, con toni molto naturalistici, molto veri, sì. E parliamo delle cose della vita, piccole cose. In realtà è un piano sequenza di cui Ricky ha diretto un'ora e mezza di vita. In realtà è una grande litigata. Sì. Bravi, così. Diciamo che la prosa, se così si può dire, è cardiaca, nel senso che non è. Siccome io sono uno spettatore molto inquieto, purtroppo, e allora ho cercato di imprimere un ritmo che non desse respiro allo spettatore, cioè che per l'idea di divertire, cioè io quando vado a teatro, il mio grande problema è che purtroppo ogni tanto penso ai fatti miei. Ecco, perché. C'è ti metti un pensiero parallelo, dai. Ecco, allora io penso che nel nostro spettacolo possano riuscire al massimo loro, cioè, a pensare ai fatti nostri, cioè a quello che stiamo dicendo. E questo... farsi un bel film in piano sequenza, invece, proprio. Beh, visto l'idea, potrebbe essere un Borman, esatto, esatto, non è molto costoso. Sì, no, piano sequenza non sarebbe costoso, non sarebbe costoso, fra virgolette. No, però ma tu è plausibile pensare. È una specie di Carnage, fatto il film di Polanski da Jasmine Reza, da una pièce di Jasmine Reza. Quindi. E le caratteristiche sono molto simili, se vogliamo, anche qui c'è. Sì, una, però quando hai detto proprio piano sequenza, ci sta, sì, sì, ci sta, anche perché poi teatralmente ce l'avete in pugno, per non cui c'è non prendiamo fiato. Ricky, io esco solo due volte per cambiarmi. Io mai. E lui mai. Te controlla. Sì. Non ti ha fatto se esce pure quell'attrice più giovane, facciamo un piano sequenza di tutto questo. Ci sentiamo la Izzo in 9 settimane e mezzo, perché lei gioca tanto a non fa la sexy, a fa la sexy, a quello è naturalmente, ma è proprio di famiglia. Se loro parlano e tu godi. 9 settimane e mezzo, ovviamente non era Mickey Rourke, ma Kim Basinger. Siamo andati oltre, uno di noi due doveva dire basta. Tu non l'hai mai detto. E io forse ho aspettato troppo. È meglio così, è meglio per tutti e due. Perché, Elisabeth? Perché? Tonino. Hai capito? Lui che Tonino Accolla. Tonino non c'è più. Che salutiamo con affetto. Quando io e Tonino vedemmo il film, ce lo fecero vedere, non era ancora uscito in nessuna parte del mondo, perché era ritenuto un film lubrico, era ritenuto un film... Beh, un successo pazzesco. Allora, uscì in Italia, però io ti dico che quando vidi questa donna sullo schermo pensai, sai come facciamo noi doppiatori, questa me la porterò dietro tutta la vita, questa esce alla grande, è troppo forte. Aveva avuto un bel crescendo, poi si è perso. Ma aveva una sensualità involontaria. Involontaria, insomma. No, era involontaria, no. Involontaria. No, Ricky, pensa se si impegnava, che succedeva. Sì. Mamma mia, una roba ancora, sì, me la ricordo bene. Ma perché si proponeva senza malizia, ma era talmente forte. Certo, no, spontanea. Secondo me ghiaccio e fragole, film, ma gli hanno fatto poi edulcorato. No, ma era talmente quelle donne che sono senza sexy voce, senza fare nulla. Esatto, è il problema che c'è pure te voi. Entrano. È il problema che ci avete voi in famiglia. No, no, noi ci diamo da fare, però. Sentite, voi nelle vostre famiglie, che sono non simili, ma insomma, c'è un momento nella vita adolescenziale di ognuno che può crescere in questa cosa, che può reagire contrastando le forze della famiglia. A voi vi è successo? Cioè, un padre così importante, una madre, eccetera, la voglia di cambiare radicalmente mestiere oppure seguirlo radicalmente, insomma. No, è successo... io ho avuto il mio periodo così di contestazione, contestavo anche lui intorno ai 18-20 anni, però sinceramente ho scelto questo mestiere e Ugo mi ha aiutato a sceglierlo che ero ragazzino, insomma. Quando io studiavo in Inghilterra, a un certo punto lui mi ha convinto a tornare in Italia, andare al Cine TV. a cominciare a studiare cinema. Noi avevamo già fatto, e poi ha preso una strada poi diversa. Sì, hai fatto poi, l'attore, sì, fai, ecco, l'attore, però diciamo, la strada tua, no, beh, diciamo, regista, che quello dell'attore, ecco, l'ho evitata per lo più, soprattutto da ragazzo, e poi adesso quando mi capita lo faccio molto volentieri. E poi c'hai una sorella e un altro fratello che, devo dire, stanno dando dei frutti veramente incredibili, invece, cioè, credibilissimi. No, Maria Sole è strepitosa, e poi c'ho pure un fratello, Thomas, norvegese. Thomas, è vero, che è un grande produttore, è andato a Cannes in concorso. Io non finivo di conoscere Tognazzi al torneo Tognazzi, infinivano più, io non sapevo più, sono tanti. Era quello che gli dice... sono pochi. No, Renato diceva a Ugo: hai fatto troppi figli maschi, e lui rispondeva: hai fatto troppe figlie femmine, perché sai che prima di noi, diciamo, si così, conoscevano prodromi... fra loro? Giuppi e Gianmarco hanno avuto una lunga storia. E poi loro due si conoscevano moltissimo. Insomma, papà lo aveva diretto spesso al doppiaggio. Comunque invece voglio parlare un secondo di Renato, perché Renato è parte l'uomo della mia vita, no, dico a parte te, Ricky. Certo. Comunque è mio figlio. Cioè, un padre però non te lo scegli, un padre ti arriva, a me è andata molto bene. Io credo di aver fatto questo mestiere per un Edipo sfrenato, per poter stare vicino a mio padre e poter trovare un linguaggio comune. Papà, l'unica sua passione era scrivere, quindi era in silenzio, chiuso in una stanza, o dirigere o fare il regista, e quindi ho pensato che potevo scrivere insieme a lui e fare l'attrice. Questo è stato il motivo per cui ho scelto di fare questo lavoro per mio padre. Papà, io lo devo ringraziare, che per me è stato uno startup veramente importante. Te, veramente ti ha, diciamo così, no? Sì, all'inizio io ho cominciato. Grande maestro. Un grande papà per noi, anche che non siamo figli, ma lo siamo stati artisticamente. Un grande maestro con il quale ho fatto una scena d'amore al doppiaggio, doppiando... soltanto la zona erotica, diciamo così, di un film, il postino suona sempre due volte, che Jack Nicholson e Jessica Lange. Non c'era Michele Gammino quel giorno perché stava male, per cui e papà vide la scena d'amore e disse: questa la possiamo fare perché sono solo fiati. Io dissi: papà, scusa, ma e lei chi la fa? Dice: beh, lei la fa, tu sei tu Jessica, no. Io ho dovuto fare con papà questa scena coi fiati, con papà, che mi è costata moltissimo di analisi dopo. Devo dire, anche a me, quando ho cominciato con i porno 35 anni fa, è vero, era imbarazzante. Ma pensa, godere. Con papà. Anche tu con mamma. Papà. No, con mamma no, ma era peggio. Nel senso che c'erano dei signori dei 50 anni all'epoca in cui non avevi confidenza, certo. Godere al microfono per 10 minuti con una dei 50 che non conosci, che fino a un minuto prima stava a fare l'uncinetto. E poi il film io non lo dimenticherò mai e lo ripeterò per sempre. Lo sto cercando perché dopo 250 film da protagonisti, io sono orgoglioso del mio passato doppiatore di film porno. Il film si intitolava Eiaculazione da Tiffany. No, dai. È una cosa fantastica. Te lo sei inventato. Ti adesso, giuro, dai. Sui miei figli, Ricky. Oh, ce l'erano. L'andiamo a cercare subito. Io l'ho cercato. Ma un cult. Sarà cult. Beh, sarà, non dire questo. Sarà un parole, cult. Mettiamo con la forse cult, è meglio. È un cult. Va bene, mi sono subito corretto. Ricky, a chi devi dire grazie? A dire grazie l'ho detto ad Angelo Tumminelli, il nostro produttore, lo devo dire naturalmente a Simona, che è stato il mio braccio destro e sinistro in questi anni. All'inizio, a parte papà, c'è stato qualcuno, un regista magari? Quello che mi ha dato per primo fiducia è stato Pupi Avati, ho fatto con lui due film come aiuto regista, e poi Maurizio Ponzi, che mi ha sopportato. Ettore Scola anche? Ettore Scola è stato il maestro, anzi... Tu hai fatto la famiglia poi, non dimentichiamo. Scola era, lo chiamavano scuola, il maestro, eccetera, per me era proprio il preside, sì, ho iniziato con lui, con la famiglia, e poi mi ha fatto debuttare come regista prima in televisione, con Piccoli Equivoci, che poi è andato a Cannes, che mi portò a Cannes, insomma, grandi ricordi e grande affetto e grande... Hai vinto pure qualcosa di importante in giro con i tuoi bellissimi film. Ultra, mi ricordo, fu un Orso d'Oro a Berlino, fu un Orso d'Argento in realtà, d'argento, insomma, insieme a Jonathan Demme del Silenzio degli Innocenti, sì, insomma, sì, lui si domanda a casa, ma che cazzo, no, invece signore, no, visto che lo so, io, ma lo Berlino dire. Spesso facciamo la parte del Leone anche ultimamente, con bene, il documentario, bene, insomma, bene. Sono molto apprezzati. Dove ti trovi più a tuo agio, Simo? Doppiaggio, libri, sceneggiature, cinema, teatro? La cosa che mi piace di più è rubare alla mia famiglia, quindi gli umori, i sentimenti, perché per me è il mio teatro, diciamo così. Tutte queste sorelle, queste donne, questi cognati che cambiano, prima ce n'è uno, poi ne arriva un altro, e il mio ex marito, la nuova compagna, cioè è questa la mia, il mio bacino, diciamo, creativo, e poi mettere in scena. Il mio problema è quando poi vedono il film o la commedia o leggono il libro, perché chi si riconosce si arrabbia, chi non si riconosce perché non l'ho citato si arrabbia ancora di più, i nipoti si imbarazzano. Cioè, purtroppo, il bacino da cui attingo, è familiare, e quindi di conseguenza e di conseguenza sono sempre preoccupata di quello che succede. Comunque, mettere in scena ciò che faccio mi piace, sai perché? Mm-hmm. Perché poi posso strappare la pagina. Borges diceva: si pubblica un libro per smettere di correggerlo, e anche un film lo smetti di correggerlo, perché tanto non ti piacerà mai, sarà sempre discronico a ciò che tu sei, perché l'hai scritto un mese fa, 10 giorni fa, anche un minuto prima, e quando lo vai a vedere poi solo allora, e magari 10 anni dopo, capisci l'errore che hai fatto. Questo è un pezzo di teatro, quello che hai fatto adesso. No, è la mia, no, però è la mia dannazione. Quello è bello. Io dei miei film, quando mi capita di rivederli, e mi capita raramente perché non sono un maniaco narcisista, non ti autocelebro, no. Però quando lo vedo, so che sta per arrivare una cosa che mi darà fastidio, e non capisco, però lo sento, dico sta per arrivare, ed è quell'inquadratura che mi è venuta storta. Ma tu te ne ricordo già in quel momento, ma anche fin di 30 anni fa. Guarda, dopo, allora... io posso fare una metafora che sembra un po' fanatica, però è come i figli. Tu vorresti sempre il meglio dai tuoi figli. Ti accorgi che poi magari sei così mancata in un momento. No, e tu capisci, e tu, mentre l'altro nota tutto il bello che c'è di tuo figlio, tu purtroppo lo vedi solo il suo difettuccio. Ecco perché? Perché vorremmo la perfezione della vita, dei figli. Hai fatto dei film meravigliosi, dai. Non parliamo della scorta, parliamo di Piccoli Equivoci, parliamo di del film meraviglioso, guarda, che è stato Canone Inverso. Dai, c'è un bel, non so chi l'ha detto, ma probata verba, dicono i latini, proverbio. Non lo so, io direi da Gianluca. Le parole provate dal, sicuramente. Ma Gianluca, però dammi una mano se devi fare così. Basta, capito, domandare. Ho capito. Il proverbio viene appunto dal fatto che le parole sono state in qualche modo approvate. Allora, c'è un piccolissimo, non so nemmeno cos'è, un detto: si vince con gli altri ma si perde con se stessi. Ecco perché il creativo continua a creare, perché perde sempre con se stesso, non gli piace mai niente. Woody Allen è così, credo. Ma anche è così, lui così, tutti quelli sbaglio, che... Simona dette nel 75 la voce a Romy Schneider nella serie Sissi? No, lei è stata Magnieri. No, non ero io, chi era? Sai che non lo so. Ma nel 65 avevo 12 anni. Come doppiatore, a mio vedere, Dognazzi è il degno erede di Glauco Onorato. Ah, che meraviglia. Beh, magari, grazie. Questo fa ridere. Mi offro come scaldavoce per cantanti liriche massime. 45 anni, garantisco serietà e prezzi mobili. Ma dai. Scaldavoce, oh, che Dio mio. Si inneggia a Nicoletti. Basta, questo così se ne esce. È sempre così, quando sei fuori casa, capito? Nessuno è profeta a casa sua. Esatto. Me mi coprono di insulti quando vado alla radio, qua mi metto. Allora, dobbiamo lavorare insieme. Chi è il maschio superfluo, Ricky? Il maschio superfluo è quello della rana pescatrice. Che è il rano pescatore. È quello che io chiamo, dicendo che non c'è manco un nome, poveraccio, chiamiamolo rano pescatore. Allora tu devi sapere che la rana pescatrice attira il maschio con quella sua fessurina, e il maschio arriva, viene risucchiato dentro, perché il povero maschio, il rano, nasce piccolo piccolo, il rano nasce piccolo piccolo, magro, senza neanche l'apparato digerente, quindi non può mangiare. Mm-hmm. Allora la femmina lo attira, e questo che è cretino, è un maschio d'altronde, esatto. Lo attira a sé e Lo metabolizza completamente, capito? Lo prosciuga, salvando naturalmente le gonadi. Ecco, a quel punto si riproduce automaticamente all'infinito, regnando sull'intera specie. Infatti, hai mai mangiato un rano pescatore? No, la rana è solo femmina. Siamo arrivati, una dobbiamo salutarli. Una coda di rospo, dicono, esatto. In realtà è una coda di rospa, hai capito? Questo è. Insomma, ne ma questo tutti per sconfitti. Dire però, no, che è superfluo quell'uomo che non vuole riprodursi. C'è un altro blocco insieme a loro, scusami. È superfluo quell'uomo che non vuole coniugarsi, è superfluo quell'uomo che non vuole crescere i suoi figli, è superfluo quell'uomo che dà alla donna un peso che oggi come oggi la donna non può e non deve più sopportare, e quindi deve essere condiviso questo peso. Allora, i giovani di oggi, per i nostri figli e i nostri nipoti sarà più facile maneggiare i figli, ma la generazione degli uomini che io conosco, non tutti, perché mi pare che qui ci sono degli esempi di padri molto affettivi, ecco, la generazione dei 50-60enni, diciamo, di quelli che sono stati i padri dei miei figli in generale, mi sembra meno portata alla paternità e più a lusingare se stessa. Preparati una domanda, Nicoletti, dopo, all'ultimo blocco. Anche la risposta. Esatto, perché loro non risponderanno. Tra poco, Voice Anatomy, grazie. Voice Anatomy. Bentornati, Voice Anatomy con Ricky Tognazzi, Simona Izzo e l'amico, a questo punto il mio tutor Gianluca Nicoletti, e siamo all'ultimo blocco insieme, poi ci sarà come al solito un attore doppiatore che è Pasquale Anselmo, la voce di Nicolas Cage e quant'altro, e continuiamo questo percorso nella voce, ma nella coppia, nel teatro, nel cinema, ovunque. Ti sei preparato la domanda, no, Gianluca? No, mi ha impressionato quello che hai detto nella pausa, che in realtà in ogni parola che noi diciamo, ogni discorso compiuto, soltanto l'8% è il concetto e il restante 92% è tutta confezione, è tutto strumento, è tutto sì, arte. Questa è un'analisi fatta da alcuni studiosi che credo sia molto vicina alla realtà. Sì, però mi spaventa quello che voi avete in mano come strumento di potere. Mi piacerebbe sapere dagli illustri ospiti quanto l'hanno mai usata al di là del palcoscenico come strumento di potere, di sopraffazione del prossimo. Provato. Lei ci prova regolarmente. No, un idraulico, io faccio venire un idraulico in 5 minuti a casa. Beh, aspetta un attimo. No, ma scusa, guarda, sì, questa frase può fare di meglio. Se la riformulassi, ma vorrei che la ricostruissi sintatticamente in una maniera. A proposito di forma e contenuto, insomma, veramente. Vabbè, scusa, solo parlando. Era per dire che al telefono, se io dico pronto, buongiorno. Già viene al telefono in 5 minuti. Lei quello fa però vedi, i maschi ci sarà però un rallentamento della transumanza verso casa tua, perché sarà fiaccato la telefonata, il traffico mostruoso. Pensa se richiama un'altra volta, vuol dire ritardo, e tu gli riparli. Fate una violenza interpretativa. Ma non è una violenza. Sì. Allora, era per dire che se io chiamo l'idraulico al telefono, dico pronto, guardi, sì, ma l'abbiamo tubo, capito cosa succede. Arrivare a casa mia, la prego, prima possibile. Poi lo faccio anche persino con l'ambulanza. Cioè, come con l'ambulanza? Ma qual pronto? Alla quinta telefonata. Ho capito, figlia mia. Se ti si rompe una cosa, chiami qualcuno, viene sicuro. Non viene nessuno. Ma amore, non c'è bisogno di fare. Buongiorno, è la Telecom. Mi prego, mi si è rotto il telefono. Prego, sì. Venga ad aggiustarlo. Ma da me vengono prima. Arrivano. Beh, grazie. Noi maschi, cioè, tu sai com'è la storia. C'è una storiella semplice, che un uomo deve fare un trapianto di cervello. Allora dice: quanto viene? Il chirurgo dice: guardi, abbiamo questo cervello di un uomo, sta intorno ai 600-700 mila euro, e poi c'è questo di una donna, sta intorno ai 200 euro. Dice: ma come mai quello dell'uomo così tanto e quello della donna così poco? Beh, quello della donna è usato. Che può sembrare un'offesa di prima acchito, ma non lo è. Poi c'è una un po' più volgare. Vabbè, ma che la prossima volta, nel prossimo orario, sempre sui trapianti. No, è sempre sulla differenza fra uomo e donna, e fa capire molto bene. Diciamo, usa una metafora. Sì, no, se devi dire, c'è poco da fare. Mettono nel cervello di un uomo una cellula nervosa femminile, una cellula cerebrale femminile, per capire come funziona il cervello di un uomo. Lei entra dentro e comincia a guardarsi intorno, è molto buio. C'è nessuno? Niente. Si avanza verso il cervelletto. C'è qualcuno? Uno. L'eco della sua voce. Verso l'ipotalamo. Ma c'è qualcuno? A c'è tutto, sento il rumore. Oddio, chi è? Sono la cellula cerebrale maschile. Ma non c'è nessuno qua. No, stavo tutti a veste del pisello, sono salito a piana birra, perché non vieni giù con noi? Ecco. Questo era molto forte. È forte, però ci cacceranno via dalla. Però vorrei stemperare tutto ciò, sì, con una provocazione che ti, diciamo così, ti fornisco, perché tu possa poi invece il mito. Allora, la voce come mito, le sirene, il mito, sì, delle sirene. Cioè, Ulisse non è stato, diciamo così, attratto dai corpi, dalle scaglie, dalle forme, ma è la voce che lo avrebbe, a cui doveva resistere. Perché la voce è la colonna sonora della vita, perché la voce è spermatozoica. Per continuare. Quella dei maschi. Quella dei maschi. No, è testosteronica, mentre quella delle donne è estrogenica. Allora la voce è una impalpabile, ma è proprio perché non invecchia. Mia nonna, 80 anni, io mi ricordo che anche lei chiamava l'idraulico, è da lei che ho imparato. Andiamo bene. E quello Simona, arrivava potresti subito far venire anche il postino in 5 minuti, visto che lo faccio da 10 anni. Vabbè, vabbè, oggi hai stimolato la parte ludica dei, cioè, dei nostri radioascoltatori. Prima si andava su certe situazioni. Vabbè, che vuoi fare. Comunque, se venite a vedere Figli, Mariti, Amanti, alla sala Umberto, alla sala Umberto, così, no, proprio scappata lì così. Mercoledì se vengono, che cosa fai? Li fai venire? Se vengono, si divertono, perché lì c'è un gioco delle voci. Perché io ogni tanto cerco per una voce virile, perché la imposto perché devo comandare. Ecco, la voce del comando è una voce virile, e non c'è niente da fare. Questo perché. Perché purtroppo noi anche abbiamo, quando sono le donne, in effetti, anche usano, se sono imposta le donne, una sì, donna che ha una più bassi, come no, sicuramente. Ho capito. Una donna che ha una voce troppo, diciamo così, di testa, come diciamo noi, non ce la fa a comandare. Il comando vuole, la voce deve convocare, deve essere impositiva, deve essere bassa. E questa si può insegnare a scuola. E allora, una signore, idea. Quando chiederete a un vostro fidanzato, ti prego, sposami, fatelo. Se glielo chiede così scappa. Oh, no, doppia, giuro, proponiti di doppiare. Dovremmo fare pronto intervento doppiaggio. Tu devi fidanzarti con una, non c'è la voce necessaria. Quanti anni c'hai? 55. Te chiamo Ricky Dognati. Te chiamo Luca Ward. Te chiamo. E poi voglio dire l'ultima cosa: che la voce al buio, beh, non invecchia mai. Io ci ho provato così perché doppio parecchi neri nel doppiaggio. E al buio ho retto, ma poi mia moglie c'ha il tatto che riconosce il colore della pelle. Tanto ormai mi devono cacciare. Ormai siamo scivolati, devo dire. Sì, siamo andati giù, vero? Nicoletti, parlami di qualcosa di alto. Qualcosa di alto, ma tu hai detto prima che tutta la vita volevi essere valutato per il tuo cervello. Ho avuto un problema contrario. Non essendo particolarmente avvenente, mi sento sempre dire: ah, quanto mi piace il tuo cervello. Ma io ero ironico. Io, no, sì, ecco. Certo. Ma onestamente, essere apprezzati per il cervello, innanzitutto sai che è una presa in giro, perché tu sai quanta parte del tuo cervello è dovuta all'artificio, perché l'abbiamo detto prima. Del mio cervello, quello che voi vedete in realtà è l'8%, il resto è confezione. Uno vorrebbe avere altre cose e altre valutazioni, e dire che almeno mi piace per i tuoi addominali scolpiti, per la tua fantastica prestanza virile, queste cose qua non te lo dice mai nessuno. Quando tu ti poni, ahimè, con questa sorta di terribile pregiudizio che passi per intellettuale, da una parte ti dicono che devi essere sempre più basso, più leggero, più comprensibile. È una vita che mi sento dire: devi sforzarti a essere capito più dalle persone, devi essere più basso, allarga, non tutti ti capiscono. E ecco, sembra, perché guarda, sei qui oggi. Sì, esattamente. Si è svelato l'arcano. Scusa, posso dire da spettatore, cioè, ma estimatore, non è assolutamente vero. Anzi, la grande forza di un intellettuale è la chiarezza, la semplicità, ed è esattamente lo strumento che tu, la confezione che tu riesci a imporre. Il segreto dei grandi è la semplicità. È la semplicità, e arriva, eh? Io ero sempre l'ultimo a scuola, mi sono laureato tardissimo. Però il tuo femore mi fa impazzire. Il mio femore? Il tuo femore mi fa impazzire. Sì. Anche il radio è l'ultimo. Ho fatto due menischi. Hai fatto pure i due menischi? Ah, con l'artroscopia. Come uno andata? Con l'artroscopia e uno con la vecchia scuola. Guarda che rimane la prostata in due minuti, fermi. L'artroscopia non senti nulla, fanno un buchettino. Ma poi quanto ci hai messo? Beh, la riabilitazione è abbastanza lunga. Medicina 33. Sì, e poi Sanatomi. Adesso arriva bene. Grey's Anatomy. Okay. Senti, comunque hai detto che questo titolo... Che Grey's Anatomy lo doppiate voi da sempre. Giuppi. Ma Giuppi è stata mia ospite, Fiamma è stata mia ospite. Fiamma Izzo, Rossella Izzo. Mi manca soltanto Rossellina, della famiglia e mamma. Non è venuta Rossella. Rossella era un po' impicciata, un po' impegnata. Poi le isole devo disdrare, insomma, 3-4 puntate sono passate una dall'altra. Ma che ora finisce la trasmissione? Alle 5. Alle 5. Ah, proprio quando noi andiamo. Io volevo solo dire che io vado a votare. So sì, che no, questo lo posso io già dire. Votato, io votato. No. Ecco. Va bene. Ma questa è un beh, ognuno basso. Dice la sua. Vabbè, ok. Quindi allora, siamo arrivati alla fine o no? Mi dite? Due minuti, due sì. Minuti. Per allora, far salutare bene le persone. Insomma, non volevo certo fare ciao, queste cose terrificanti. Allora, ovviamente con Simone, io lo so, con Simone e Righi abbiamo fatto anche qualcosina insieme, piccole avventure promozionali mercantili ma a casa eccetera, si potrebbe andare avanti veramente delle giornate intere. Io sono ancora impressionato dal rano pescatore, una sorta di spermatozoo monodose che non serve a niente, una volta sparato dentro non serve più a niente. No ma quella è come un microclisma monodose, mica ne fa uno poi dopo. Io farei un'applicazione Nicoletti sul telefonino quando ti trova delle parole, delle sintesi, comunque delle cose. Senti, devi studiare anche la storia dei bisonti, perché che c'hanno i bisonti? Ma il bisonte americano, soprattutto quello americano, contraddice l'idea che l'omosessualità non sia, diciamo così, una cosa naturale. Perché per tenere a bada gli altri bisonti, in realtà di coccola se li imbrocca. Bravo. Sì. Per forza. C'è questo rapporto, c'è questo tranquillo rapporto. Sì, ma non solo i bisonti, ci sono 1500 specie animali. Noi che proprio sì, come hai usato il termine imbrocca? Si imbrocca, si imbrocca, si imbroccano tra di loro. E perché però? Pulito. Perché mica sono sciocchi. Cioè il bisonte leader tiene a bada i bisonti, gli altri bisonti, così quando arriva la bisontona è roba sua perché gli altri sono... Perché insomma, io venì con te, devo prima passare Corighi, cioè me fai capire questa cosa? Ma lei non è una bisonta. Ho capito, ma è una pinguina al massimo. Ho capito, io sono un pinguino, ma se pure mi piace... pinguini. Esatto. Anche il moscerino della frutta pratica, no. Ti giuro su Dio. Ragazzi, studiate gli animali. No, gli animali li studio anche. Ma l'omosessualità degli animali è la prova che tutto ciò è naturale. No, ma io sono a favore persino assolutamente. Persino i pipistrelli. Pure i pipistrelli. Beh, quelli perché non vedono, sono ciechi. Certo. Vanno alla cieca. C'è. Do coglio. Nicoletti non poi è una scelta. È una battuta della nostra commedia. Secondo me l'ho già rubata. Nicoletti è veloce. Ci arriva, ragazzi. Ci arriva. Ragazzi, che mica stiamo scherzando. Ma è una bella tavola rotonda questa qui. No, esagonale, ma insomma, più o meno. Allora, Simo, grazie. In bocca Dino, al lupo, merda, un bacio come si dice. A tutti i tuoi figli. Tutti, un bacio anche alla tutti la tua famiglia. Meravigliosa moglie. Grazie, tesoro. Ci vediamo a teatro, in sala di doppiaggio. E poi a casa, ovviamente. Teatro, alla Sala Umberto. Sala Umberto, Simona Izzo, ovviamente Ricky Tognazzi. Fino il testo scritto da Simona Izzo, la regia è di Ricky Tognazzi. Poi c'è Giuseppe Manfrini e Chiara Tomaselli, prodotto da Angelo Tuminelli. Figli, mariti, amanti. Ha sentito che posizione? Ecco. Lo so, sento rimbalzare queste emissioni sonore. Dicevo, da 35 anni che sto alla radio, non ho mai sentito una sorta di immersione totale così profonda nelle sonorità. Quanti artigiani faranno capo a casa loro adesso, che lo chiameranno postini, idraulici, elettricisti. Bene, rimanete con noi tra poco Pasquale Anselmo, non so se l'amico Gianluca rimane, ma mi farebbe tantissimo piacere. A tra poco con voi Sanatomi, grazie. Ciao. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sì, un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E a tutti i convocati weekend ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. Sanatomi. Eccoci di ritorno, 15:34 minuti e una manciata di secondi, 35 in questo momento. Pasquale Anselmo, come ho preannunciato prima, voi le richiedete a gran voce, visto che di questo si tratta, e Pasquale Anselmo è qui, è vicino sempre Gianluca Nicoletti, che oggi mi fa da tutor, mi accompagna in questa avventura vocal radiofonica che sta avendo un grandissimo successo. Io ti ringrazio, Gianluca. Ma figurati, è un divertimento. Lui dice che non ha una voce giusta, ha una voce straordinaria, nel senso, sì, lui, anche secondo me. E soprattutto ti porta per mano nel suo mondo e te lo racconta bene. Ed è quello, no, Pasquale, la voce? Decisamente, io me lo ricordo dai tempi di Golem. Quindi... Ah, pensa un po'. Ma se ti stupisci. Non lo so, Ma non devi. Beh, trasmissioni intelligenti sono così poche. Ecco, vedi, mi apprezza per l'intelligenza. Ancora. Gianluca, rimani per favore, sei brillante. Ho capito che fate il tipo che Gianluca. Ma mi leva la trasmissione, Gianluca. Scende dal treno e allora, monta qui. Io ti farei vedere gli sms che arrivano a me dopo 30 secondi che parlo la mattina durante il mio programma. Ammazzati, buttati alla finestra, spengo la radio. E quella scuola Cruciani, quella scuola Cruciani. No, è lui, credo, che ti manda quei messaggi. Pasqualino Anselmo, nato a Cosenza, calabrese doc, vero? Sta guardando anche la partita del Cosenza, sì. In questo momento esatto. L'ho trascinato via da quel mondo, ma tu teatro, televisione, cinema, doppiaggio, non parliamo soltanto di doppiaggio. Poi tu nasci nell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, ci siamo conosciuti in quel periodo, no, io ero un laico, ero staccato dall'Accademia e tu camminavi parallelamente a noi dell'Allegra Brigata. Quando esatto. è nato il tuo rapporto? Come è nato? Prima il teatro, poi il doppiaggio, insieme, parallelamente? No, no, no, decisamente prima il teatro. Innanzitutto buonasera, buonasera esatto, a tutti. Sì, sì, buonasera. Dopo mezzogiorno, buonasera, come una donna dopo 18 anni è signora, no? Io chiamo tutte signorina, mi piace. È vero. Fa esatto. un grande colpo, la gente, ah, ti guardano così. È desueto, è vecchio, lo so, obsoletissimo. Può dire signorina oggi fa molto colpo. Però qui oggi siamo due signori, purtroppo. Due signorini. Tre signorini. Signorini. Sì. Signorini. Per cui nasci con il teatro a Cosenza tanti anni fa e poi c'è stato il concorso all'Accademia d'Arte Drammatica. Non facile in una città, insomma, del sud, dove c'è la voglia maggiore di poter intraprendere un mestiere. Io normalmente vedo sempre le persone che vengono dal sud, sono quelle che hanno l'occhio della tigre, come dice Rocky Balboa, la voglia di fare qualcosa, però, uscire da una dimensione. Però quello era un periodo fortunato, perché erano gli anni 70, c'era voglia comunque di scoprire, di vedere delle cose. Poi c'avevamo un assessore, un governo comunale all'epoca abbastanza illuminato, no? Nel senso che abbiamo avuto il Living Theater a Cosenza, tutta una serie di spettacoli importanti, Carmelo Bene ogni anno in abbonamento a teatro, per cui insomma c'era questa attenzione. Certo è stato difficile come tutte le cose, insomma. Penso sì, anche no. per te sia stato difficile. Sì, ma sai, però nasce, sì, io perché venivo da una famiglia, non sono un figlio d'arte, sono un figlio d'altri, siamo figli d'altri, sì, per cui sicuramente è difficile scegliere un mestiere che conosci, che lo sfiori al cinema, ascolti, ma non pensi che tu potrai essere mai un protagonista di quell'ambiente, anche perché poi quando da ragazzo tu incontri quelli personaggi famosi che sono arrivati da qualche parte, chiedi come si fa, ti dicono sempre no, cambia, lascia stare, non esatto. è il caso. Ma questo c'è, cioè, questo vizio in tutti i mondi, anche il mondo, insomma, medico, degli architetti. Chi è arrivato da qualche parte, un giovane si affaccia, trovi sempre l'arrivato che dice no, ambiente, lascia stare. No, secondo me la verità sta nel mezzo, sì. nel senso, bisogna avvertirli dei pericoli, ma anche spronarli a fare, cioè, se no non esiste al mondo. Qual è stato lo sliding doors della tua vita? Dove hai capito che stavi per cominciare, guarda, a fare questo mestiere? Pensandoci a distanza di anni, adesso non vorrei fare un po' di patetismo d'accatto, però insomma, diciamo, lo sliding patetismo d'accatto è bellissimo. No, nel senso che io ho perso mio padre abbastanza giovane e ci avevo 16 anni, allora un paio di mesi, due o tre mesi dopo la morte di mio padre, ho iniziato a frequentare un gruppo di teatro. Ecco, forse quello è stato lo sliding doors e il rammarico più grande della mia vita, che lui non ha mai visto che facevo questo mestiere. Sì, poi un padre è importante, quella è l'età dove, sì, un figlio proprio si specchia decisamente nel papà. Mi rendo perfettamente conto. Ci ascoltiamo un pezzettino di un film dove l'amico, bravissimo professionista, Pasquale, doppio ormai da come un fratello, Nicolas Cage. Quale ci ascoltiamo? Left Behind, la profezia. So che volete sapere cosa sta succedendo e credetemi, sto facendo il possibile per scoprirlo. Irene sapeva che sarebbe successo, mi parlava della profezia, come faceva a saperlo? Non ho spoiler, non ho flap, non si apre il carrello, non ho più carburante né spinta propulsiva. Liberate la pista! Voglio che tu sappia quanto ti voglio bene, qualunque cosa accada. Qual è stata la prima volta che hai doppiato Nicolas Cage? Quando è cominciato il rapporto con lui? 20 anni fa, esattamente, con il film The Rock. Ah, quel bellissimo film, sì, con Sean Connery. Con tutti. Sean Connery, doppiato da un grandissimo Sergio Rossi, uno degli ultimi doppiaggi che ha fatto. È vero, è vero. E da lì non è più male, a parte qualche piccola inframezzo che ogni tanto capita al nostro mondo. Sì, sì, sì. 20 anni, insomma, 20 anni. L'hai mai incontrato? No. Ho incontrato il suo segretario, come il mai? Quale ci ha tenuto tantissimo a farsi una foto con me per portarla a lui. Sì, esatto. È l'opposto. Esatto. Praticamente, qual è stato il primo doppiaggio che hai fatto? Dove è cominciata la tua avventura nel mondo della voce? Parlo del doppiaggio, ovviamente, il mondo della voce, il teatro, è cominciato prima. No, io avevo già fatto delle fiction per la Rai, sì, e mi ero doppiato da solo per le integrazioni. Poi una volta è successo per caso che Mario Maldesi, il mio maestro, insomma, uno dei più grandi direttori, aveva bisogno di una voce con l'accento calabrese per doppiare un personaggio di un ragazzo di Calabria, di Comencini, quel film con Abate Antuono, Gian Maria Volonté, eccetera. Ed era un signore di 65 anni, preso sul luogo, e lui era disperato perché non c'era nessun attore che lo poteva fare. O meglio, ce n'erano alcuni che erano stati già impiegati in altri ruoli. Quindi mi hanno chiamato per caso un amico. Il calabrese è difficilissimo da fare. Insomma, siciliano c'ha il suono catanese, il pugliese c'ha il suono barese che riconosci per eccetera, ma il calabrese, a parte il gioco sul catanzaro aspirato, eccetera, esatto, non è facile. Esatto. Poi e quindi ho cominciato con quel film là e poi Mario gentilmente ha cominciato a chiamarmi e poi da lì è cominciata le cose. Che tu poi c'hai una bella vociaccia. Sì, no, nel come senso... Piero Tiberi, come Angelo Nicotra, esatto, bella sgranata, sono da quelle carattere, voci sì, da, sì. Che ci sono sempre belle, quello che diciamo sempre non è la bella voce, sono le belle intenzioni, certo. Sono il modo come racconti e come porti quelle persone in quel mondo, nell'immaginario di quel mondo. Per questo dicevo all'inizio a Gianluca, non è la voce timbrata, quella che sto utilizzando, no, io adesso, non impostata eccetera, ma molto naturale, che fa il bravo attore, il primo attore. Sì, può fare l'eroe in un film, in costume, in fa cui il serve. Bravo speaker, più esatto, che altro. Esatto. Però la voce sono le giuste intenzioni, il modo giusto di gestire quell'apparato, questo strumento a fiato di cui vieni dotato e devi cercare di mantenerlo. Infatti la trasmissione poi sanno perfettamente tutti, ci sono dottori, medici, chirurghi che vengono, raccontano, vocologi eccetera, come bisogna cercare di mantenere la voce. E il mio sogno fra poco è quello di costruire anche un tutorial per le persone a casa, come quelli che facevano ginnastica, non potevano andare in palestra e appariva già in fondo sul televisore. A questo punto mettere dei bravi professori. Gianluca, stai per esprimerti? No, sto pensando che è giustissima l'idea che avevi accennato prima di cercare di introdurre nelle discipline scolastiche anche l'uso della voce, ma sarebbe molto utile anche per gestire alcuni problemi che ci sono oggi molto presenti nelle scuole italiane. Tu pensa che gli atti di bullismo sono sempre verso persone che hanno maggiore timidezza, maggiore difficoltà a esprimersi. Se tu metti insieme una classe ed hai tutti uno strumento per essere uguali, che non balbetti, che non sei timido, che non hai paura, che non arrossisci, che non squittisci, che la cosa tipica della persona poi viene giudicato un perdente, fai un grande servizio anche per la scuola italiana che sta facendo una grande battaglia sul bullismo. Sul bullismo, assolutamente sì. Quella è anche una bella strada. Gianluca Nicoletti mi ha fatto scoprire la mitica storia di Ettore Majorana. Per questo e molto altro, stima assoluta, Mauro di Radio Zammu, la radio dell'Università di Catania. Un grande applauso invece all'amico... Eccolo qui al Pasquale Anselmo con la sua bella voce che ci accompagna in tanti bei film, eccetera, eccetera, eccetera. A quale dei film sei maggiormente legato? Quelli di Nicolas Cage? Qual è quello che ti è piaciuto più doppiare? Ma guarda, tanti, però ce n'è uno in particolare che mi ha anche un po' provato psicologicamente. Sì, eh? Era quello di Scorsese, si chiama Al di là della vita. Ah, quello difficile, quello sì. sulla l'ambulanza. Quello... Sì, esatto. Quello è un film, una serie di veramente... mostri nell'armadio, insomma. Sì, quello è un film in particolare di dove lui utilizza la macchina, per esempio, è pazzesca, ma esatto. È onirico, è folle, è estremo, sembra più un film di Terry Gilliam. Esatto, è uno dei delirio. Film più difficili. Sì, più difficile. Quello lì ci ha veramente portato via. Invece teatro stai facendo, stai continuando a farlo oppure sì, l'hai più... messo da una parte? No, assolutamente, più che fare teatro diciamo codificato con le grandi tournée, faccio delle capatine nella mia città a Cosenza e ultimamente l'ho fatto nei fine settimana, uno spettacolo in una villa che era appartenuta a questo compositore cosentino Alfonso Rendano, a cui è intitolato il Teatro Comunale di sì. Cosenza, dove tu sarai stato. Sì, sì, Svariando, come no. Esatto. Quindi abbiamo... E faceva pure freddo quando ci sono stato, esatto. Ma un freddo. Dice, vabbè, vado in Calabria, fa caldo. No! E quindi ho fatto questo compositore all'interno di questa villa, in uno spettacolo itinerante con la musica classica dal vivo. La sua storia? Cioè, hai raccontato, è un monologo? Momenti di... Eravamo in tre in scena, momenti della sua vita in ogni stanza. Beh, bello, itinerante all'interno della... Itinerante all'interno di quella villa, stessa appartenuto a lui, con sette musicisti classici, diciamo. E questo non si può portare fuori? No. Cioè, lì si può esportare lì, il format. Sì, il format, perché è evocativo proprio perché dà lo spazio che sta lì all'interno. Ok, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo immediatamente con Pasquale Anselmo. E Gianluca, se rimane ancora, bene. Se quanto, no, ancora, in... quanto ancora? No, quanto vuoi tu? Tu puoi no, andare no, per me, devo portare mio figlio a prendere il gelato. È lui che ti sta portando a prendere il gelato, sì, Gianluca. Chiaro, non giochiamo. Decidi tu, casomai torniamo e decidi di andare. Va bene, così okay, saluti così, come certo. Degnamente meriti. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Voice Anatomy. Come promesso, tornati 15:46 minuti e 10 secondi. Pasquale Anselmo al mio fianco, il cuore e Cosenza che starà facendo. Ti informi un attimo, Alessandro, che saluto al di là del vetro, il nostro tecnico del suono che si alterna con Valerio. Ma oggi c'era la Roma a mezzogiorno e mezza, per cui Valerio non viene. Prendo il tablet. Prendi il tablet? No, ma lui si informa. Tu puoi continuare a vedere. Grazie a Gaia dall'altra parte del vetro, come sempre, a Damiano e al capoprogetto Alessia Navarro. E Gianluca, che fai? Vai a prendere il gelato? Sì, devo lasciarvi, vi ringrazio. Tanto, è stata una bella ospitalità, è stato molto bello per me stare qui, ci tornerò domattina, quindi. È vero, domani tocca a te e un giorno ti raggiungerò io a sorpresa e non ti libererai di me. Ma figurati, ho piacere, anzi. Bello questa radio osmotica. Osmotica, ciao, grazie. Grazie Gianluca Nicoletti, ciao. Grazie. Allora, amico mio, noi avevamo preparato una cosa carina da fare insieme, io faccio il coro, perché ogni volta che viene un attore, un doppiatore, ci divertiamo a utilizzare la sua voce in maniera anacronistica, cioè comunque in maniera diversa dal solito. E mi piaceva, la facciamo qui o nel prossimo blocco, secondo voi? Nel terzo blocco, sì, abbiamo un altro blocco insieme, no, la facciamo dopo Pasquale. Per cui, però tu sei stato anche, hai impersonato il ruolo del muratore Luigi delle bicocche, sì. Nell'album di Caparezza, Le dimensioni del mio caos. Sì, è stata un'esperienza fantastica con Caparezza. Caparezza proprio. Lui è calabrese? No, è pugliese lui. Pugliese, un chiedo ragazzo, scusa a Caparezza. Un ragazzo in gambissimo. Mi piacerebbe incontrarlo o parlare di lui, perché lui poi come voce è una voce così particolare che veramente c'ha soltanto lui. È geniale, è molto umile. Sì, c'è un testo meraviglioso che mi fa molto ridere, dove dice tutti i finali dei film, tutti, non so se l'hai mai sentito, si chiama Kevin Spacey, cioè, prova a cercare Kevin Spacey di Caparezza, ma è veramente folle, dice tutti i finali, dice voi mi odierete non più soltanto per la mia voce, ma per quello che sto per dirvi, e comincia a dire il finale del Sesto Senso, dei Soli Sospetti, De Profondo Rosso, una cosa brutta. E invece le serie, tu sei vicina, i Simpson tu hai sostituito... C'è qualcosa, un personaggio dei Simpson? No, quello è stato un omaggio soprattutto al nostro amico Vittorio Amandola. Vittorio Amandola, l'hanno sì, chiamato per sostituirlo e ci ho tenuto a farlo. Ma diciamo che non sono mai stato legato tantissimo ai Simpson. Ai cartoni non sono mai stato tanto legato. Strano, poi una voce come la tua dovrebbero... Ma faccio fatica. Ma dai. Sì, perché col vocione ti fanno fare sempre quelli là un po', no, cattivoni, orsi. Tutti quelli arrabbiati, straziati. Un turno di cartoni ti porta costa via. Tre turni poi di voce. Esatto, di inalazioni, di cortisone e di quant'altro. Nicolas Cage non lo sopporto, ma con la voce di Pasquale prende tanti punti. Vedi, noi siamo molto a tempo. Mi fa sentire, hai trovato che mi spesi? Mettila un attimo, tanto che faccio due risate, visto? Muore in Armageddon. Pressione di Cristo, pressione di Gibson. È un robot quello messo sul crocifisso. Ti disturba? Beh, a me disturba che la trama ti disturbi sia la stessa di Hitchcock. Il curioso caso di Benjamin Button. Lo vedi al contrario di un film come un altro. Ma che ti aspettavi di dicessi? The winner is Kevin Spacey. Bellissimo, ma è lunga, gli dice tutti i finali. Gli dice no, ma lui è geniale. Devo trovare il modo di contattare. Non so se tu ci sei in contatto, ma un giorno voglio. No, hai avuto questo contatto, no. L'hai ispirato qui. Però il contatto l'ha avuto il nostro collega Davide Lepore, che mi ha chiamato e ha diretto questo doppiaggio di questa. Di questa situazione. Di questa situazione, di questo disco, diciamo. Quali altre passioni hai, Pasquale? Cioè, il nostro lavoro ci porta via tanto tempo, forse tutto il tempo certe volte. Sì. Perché quando sei libero anche tu, ecco, vai nella tua città e reciti il sabato e la domenica, per cui esatto. Oggi ti ho incastrato io qua. No, nel tempo... ho fatto quattro fine settimana. Sì, no, tutti, certo. Ho tutti. Anche un'età. Ho anche un'età. No, ma quale età? Tu sei... cioè, abbiamo la no, c'è un anno più grande. Io l'altro giorno ho fatto 58. Esatto, il 14 aprile. Esatto. Vabbè, ma frese, sempre uguale tu fai. No, per carità, però insomma lo stress si sente, perché poi ci sono i turni durante la settimana, quindi insomma il teatro è un lusso. Sì. È un lusso che ci permettiamo solo dall'alto. Ma quello dove carriera, sei nudo, dove dimostri quello che vali realmente. Sì, ma mettere su una cosa ormai, insomma, cioè lo sai meglio di me quello che è il mercato ormai teatrale italiano. No, il teatro è come il delitto, non paga, per cui io oggi corro a fare l'ultima replica, finisco qui alle 5:05, alle 5 dovrei essere in scena, ma aspetteranno 10 minuti. Sì. Però è la gioia, quello lì è tutto il mondo, quello che è lì di fronte alla televisione, non c'è televisione che tenga, cioè, la televisione ti permette di scegliere la tua forma di tristezza come i soldi. Esatto. E però il teatro è quello che ti dà più soddisfazione. Però venendo qua riflettevo su una cosa, mm-hmm. no? che la nostra categoria, no? tutto sommato, a parte qualche persona che comunque conferma la regola come eccezione, però è una categoria che rivendica lavoro, non è che rivendica successo, fama, okay. popolarità o grandi milioni di dollari, cioè rivendica lavoro quotidiano, no? E sono poche le categorie che rivendicano lavoro. Lavoro, cioè tanti che rivendicano diritti, tanti che rivendicano riposi, tanti che rivendicano... Noi invece in teoria, non dico doppiatori, proprio gli attori in generale, sono sempre in giro a chiedere lavoro, di lavorare, perché hanno voglia, gli piace, è un mestiere che piace. È un mestiere emotivamente poi che ti porta poi veramente a dei momenti di elastico depressivo e maniaco depressivo e maniacale, cioè i due estremi, no? Sì, se lo prendi in un certo modo, se lo prendi dal punto di vista del lavoro e del gioco è un'altra cosa. Infatti si chiamano player, no? In Inghilterra, e jouer in Francia, siamo solo noi attori. Esatto, è quello. È vero, questa rivendicazione quotidiana non è male. Insomma, che cos'è che ti piace fare a prescindere da questo mestiere? Hai degli hobby particolari? Guarda, ti regali qualcosa? Coltivi? No, l'hobby particolare è il calcio, come sempre. Gioco tutti i giovedì a calciotto ancora. Ancora è beato, sì, con i doppiatori. E poi devo dire che negli ultimi, diciamo, 15 anni mi è venuto questo pallino un po' dello studio. Mi piace tanto leggere, studiare, ascoltare musica classica, mi piace tantissimo fare delle operazioni, scrivere ogni tanto, ma per fatti miei. La prima cosa che ho messo in scena è stata questa, basta. Non metti in piazza, non diventa tridimensionale. No, perché no, noi abbiamo anche questo fatto, che se facciamo una cosa dobbiamo poi raccontarla. No, però è come se cercassimo che... sempre la conferma, certo. di siamo un popolo di insicuri. Facendo un lavoro quotidiano, io quella parte lì la scarico tutti i giorni col doppiaggio. Sì. E niente mi toglie dalla testa che anche questo studio che faccio a posteriori, non nella mia vita, anche questi approfondimenti che faccio, mi arricchiscano anche nelle intonazioni, niente lo esclude. Per il momento sono monotematici gli approfondimenti che fai, cioè sulla musica classica, magari biografie di grandi compositori, oppure vai spazi? Spazi larghi, perché da un paio d'anni ho cominciato a fare dei recital giù in Calabria di pezzi assemblati, e quindi metto insieme anche pezzi di cantautori, no? Che secondo me assurgono a dignità letteraria, nonostante siano dei testi. Se pensi a De André, o pensi a Gabber, Guccini. O Guccini, c'è Cirano di Guccini, che è spettacolo. Ma non solo, Gabber, hai detto e ci sono anche tanti pezzi scritti teatralmente, no? Che funzionano con dialoghi all'interno, che sono facili e belli da recitare. E quindi un po' di approfondimento in questo senso, cioè mi piace moltissimo. Però ti vedo nelle biblioteche a Roma, biblioteche, sono delle biblioteche a Roma che nascondono degli angoli dove si possono fare queste cose, delle letture con le persone. Ho visto in una situazione notturna a Roma, a Trastevere piuttosto che a Via del Governo Vecchio, eccetera, dove ci sono degli angoli dove uno si può esibire. C'è una telefonata, mi dice Damiano, Gaia, Alessandro, con dei segnali di fumo. Sì, prima di andare in pubblicità, se facciamo tempo, c'è Claudio da Roma che vuole intervenire. Bene. Buonasera. Buonasera, Claudio. No, parlavo anche con mia moglie. Bene. Io 4-5 pomeriggi di sabato che sento Radio 24. La sento sempre, ma per un insieme di situazioni mi ha portato a stare seduto in macchina e sentire in segno per tutto il programma. E devo dire, devo chiedere perdono, perché a me... Sì. Lei o te, tu. Sì. Ma è antipatico. Vabbè, cosa, è giusto. L'unica cosa che eravamo legati era Lazio. Pensa poco, guarda che ci lega una situazione terribile. E ho sentito che tu alle 5 sei a teatro. Allora sì. Lazio-Palermo la vedo io. E poi sì, ma non l'avrei vista, perché proprio ormai sono proprio... mi stanno a fare veramente... Ma questa è la trasmissione che viene dopo la mia, quella sul calcio. Sì, ma comunque devo riconoscere che sei uno preparato. Perché sento poi, quando dialoghi con vari personaggi, entri e dico, ma Sarola, ma questo lo sei studiato tutto prima? No, è l'amore... È l'amore che metto nel mio... nel mio lavoro e lo faccio un po' dappertutto, però vabbè, è giusto, quando uno fa questo mestiere si mette in vetrina ed è giusto che la gente si riserva di dire mi sta simpatico, mi sta antipatico e giudichi in qualche modo dell'operato. Va bene, spero di averti riconquistato almeno radiofonicamente, ce la metterò tutta per rifarlo televisivamente, per farlo anche da anche dal punto di vista del doppiaggio, insomma seguimi un po' di più e vedrai che non ci legherà soltanto quella squadra che ci sta facendo, non so il Cosenza come sta andando, ma Lazio insomma bene, meglio bene. Da Lazio sicuramente, sì, sì, decisamente. Claudio, buon viaggio, buona domenica, grazie, grazie, buon un bene, saluto bene, a te e tua moglie, grazie. E noi ci vediamo tra poco, questa è la pausa più lunga se non sbaglio, vero? Ce ne sono 10 minuti e poi torniamo con Pasquale Anselmo, ci divertiamo 10 minuti per avere poi altri ospiti, Marco Guadagno eccetera eccetera. A tra poco, Voice Anatomy. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Voice Anatomy. Bentornati dopo la pausa leggermente più lunga, sempre qui in compagnia di Pasquale Anselmo, ci siamo raccontati un po' di cose, ci siamo fatti la foto per mettere ovviamente su Facebook, come sapete il nostro sito, siamo pieni di social che voi frequentate assiduamente, anche perché sono molto divertenti, carini e aggiornati quotidianamente. E parlavamo della sua nascita appena nato, io ho detto la foto che ho fatto con Pasquale, io sono quello con i capelli più bianchi, e Pasquale mi ha detto io sono nato bianco. Io sono nato bianco, sì, e non eri albino. Assolutamente no, i miei hanno pensato per qualche giorno che fossi albino, hanno fatto dei voti particolari, poi sono diventato nero. Nero, però io ripensandoci ho capito perché, insomma, nascere nel 58 all'improvviso a Cosenza, un attimo ti vengono i capelli bianchi. Però poi invece no, è la città che ama, insomma, la mia città. Stai adesso col tablet davanti, bisogna dirlo, che vedi il tuo Cosenza che sta perdendo 1-0. Sta perdendo 1-0 a Melfi, mannaggia. Che non possiamo, Melfi è un'altra bellissima città, bellissima. Sì. Il castello di Melfi, mi ricordo anche lì una tournée bella. Sì, vabbè, adesso c'è la fabbrica, quindi cioè, è diverso. Sì, al posto del castello, no? No, nel senso che la popolazione ormai è tutta di tute grigie, addio, della Fiat. E ho visto un servizio su Melfi incredibile. Salve, mi chiamo Aldo, ho 19 anni, faccio teatro da 2-3 anni e vorrei diventare un doppiatore come voi. Che strada avete fatto per diventare quello che siete adesso? Ma guarda, noi lo diciamo sempre, qui altri, madonna, quanti messaggi. Ciao Pino, vi prego di non dimenticare il lavoro di Pasquale Anselmo nel dare lavoro a Jason Lee in una delle più belle serie che ho mai visto, My Name is Earl. Bellissima, is Earl, sì, sì, divertente, sì, sì. Molto divertente, molto corta purtroppo. Qui, sono state fatte 2 stagioni e basta. Qui c'è sta Giuseppe Ciampi che è un professorone che ce ne riprende quando uno parla male e dico uso piuttosto in modo anomalo, cioè con un significato diverso, addirittura opposto da quello che è vero. È terribile, è scandaloso. Vabbè. Sì, è vero, ultimamente stanno dicendo di questo piuttosto. Sì, effettivamente. Vabbè, cercheremo di stare attenti. Stiamo attenti. Io non lo dico più. Basta così. Grazie comunque. Comunque, insomma, grazie davvero. Com'è stato doppiare Louis C.K.? Louis C.K.? Un attore americano strepitoso. Dove l'hai fatto, Louis C.K.? No, in una serie che si chiama proprio Louis C.K. C.K. Sì, sì. Esatto, per 5-6 anni con la tua amica... Chi è? Francesca che mi dirigeva, Draghetti, come no, che mi dirigeva. È un attore del Comedy Cellar di New York che si esibisce a microfono aperto uno e basta, standing. Esatto, tipo Lenny Bruce, sì. E poi ne ha fatto una serie perché ha sceneggiato alcuni pezzi dei suoi monologhi. Per cui difficilissimo. Difficilissimo e bellissimo, mi ha arricchito moltissimo. Eh molto, sì, molto, poi molto. Ne rubiamo anche, insomma, in questo caso. Anche la sua velocità. Ci dicono tanto come fare questo mestiere, ce lo dicono in... Ecco, saluto Marco Guadagno e tutta la schiera di attori che si è portato dietro perché sta per debuttare. E ci dicono come facciamo a diventare doppiatori. Intanto, primo, lo diciamo sempre, prima bisogna essere attori. Bisogna studiare la dizione, l'impostazione vocale, le intenzioni, quant'altro, bisogna essere veramente esperti. È il climax del lavoro dell'attore, perché devi andare a tempo con un altro, con la sua voce, o comunque cercare di stargli vicino il più possibile nell'interpretazione senza muoverti di fronte a quel microfono, rischiando anche, come ho fatto io l'altro giorno, delle mamme a giacca, a camicia e le scarpe, perché facevano rumore. Non ti dico la sessualità che sprigionavo in quella sala. C'avevo la canottiera bianca tagliata a mano. Puoi immaginare che l'assistente aveva delle velleità, le ha perse totalmente. Per cui quello bisogna fare intanto. E poi girare per le sale, come abbiamo fatto tutti. girare e chiedere per cortesia se si può assistere, se eccetera. Poi ci sono dei piccoli corsi per attori, certo, fatti da dei colleghi che magari si possono seguire per capire intanto come funziona il microfono, come funziona la tecnica del doppiaggio, che è la cosa più complessa, no? Però sì, su questo sono d'accordissimo. Però la cosa fondamentale è il tempo. Il tempo, cioè, non vorrei che queste scuole, fra altre cose, io ne frequento una, nel senso che ne insegno in una scuola, ma dove? Quello che dico sempre, sì, professionedoppiaggio.com si chiama, la nostra scuola. Ecco, volete, questa è no, già ma la cosa che dico sempre, strada. Dico sempre a tutti è che per diventare quello che sono, diciamo, ormai nel doppiaggio italiano ci ho messo 25 anni. Un allievo, per non essere un maestro fallito, ci deve mettere la metà, se no evidentemente abbiamo perso tempo. Ma la metà sono 12 anni e mezzo, non 12 lezioni. No, cioè, ma tuttora noi ci stupiamo e scopriamo nuove possibilità. Cioè, non o sono perdiamo. Corsi per sopperire alla disoccupazione giovanile, non sono corsi immediati, sono corsi in cui si raffina una tecnica, si sviluppa una passione e poi si comincia ad andare. Perfetto. E passano anni. Sì, ecco, questo non per spaventarvi, no, ma assolutamente, tutti noi, insomma, assolutamente, io per anni per invogliarvi. Certo, assolutamente. È così, chissà se assolutamente pure si può utilizzare così, anche quello di assolutamente sì, assolutamente no. Piuttosto assolutamente, piuttosto forse, assolutamente. Esatto. Come ci scrive Giuseppe Ciampi. Sì. Allora, io come sempre con i nostri amici, colleghi, attori, doppiatori, leggiamo qualcosa, leggono qualcosa di anomalo rispetto alla loro voce, noi faremo... Io farò solo il coro però qui di questa grandissima canzone, la reciterà Pasquale Anselmo, io sarò solo un piccolo supporto, e la farà come se fosse Nicolas Cage o come se fosse Louis C.K. o come se fosse Sceglilo Tu. Diciamo pure che è un trabocchetto infame, infame quello che stai tendendo, esatto, in questo momento. C'è anche una musica... domenica pomeriggio, esatto, io sono senza divisa, sono in borghese. Quindi... non dovresti lavorare così. Esatto. Però esatto. Senza... è molto intensa quello che stai per leggere. Immagino. E vorrei che tu gli dessi veramente lo spessore necessario. Lo spessore che merita. Che merita questa canzone. A voi la possibilità di indovinare strada facendo prima che diciamo il titolo, va bene? Mano al telefono, vai con gli SMS, vai con la base, Ale. La sveglia sta suonando, ma fatela tacere, perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho. Alzarsi così presto non è poi così salutare. Ragazzi, prima o poi mi ammalerò. Invece, oltre la scuola, 100 cose devo fare, inglese, pallavolo e perfino Latin dance. E a fine settimana non ne posso proprio più. Mi serve una ricarica per tirarmi su. Ma un sistema rapido, infallibile e geniale, fortunatamente io ce l'ho. Se me lo chiedete, per favore, il segreto io vi svelerò. Ma sì, ma dai... E diccelo anche a noi. Sono le tagliatelle di nonna Pina. Oh Cristo. Un pieno di energia, effetto vitamina. Mangiate calde. Con ragù. Con ragù. Ti fanno il pieno per 6 giorni. Ed anche di più. Wow, wow, wow, wow. Perché le tagliatelle di nonna Pina? Sono molto più efficaci di ogni medicina. Sensazionali a pranzo, a cena, e credi a me, sono buone anche al mattino, al posto del caffè. Oh yeah. Vai, con coraggio. La situazione è grave. Lo so. Ed anche i miei amici sono tutti un po' stressati per il troppo lavorare. Il tempo pieno a scuola non lo vogliamo fare, vogliamo star con mamma e papà. Ma intanto mi hanno iscritto anche a un corso di Kung Fu. Sfruttando. Sì, può essere una nuova idea. Giusto. Sfruttando l'ora buca fra chitarra e ciclocross. È veramente troppo. Non ce la faccio più. Mi serve una ricarica per tirarmi su. Ma un sistema rapido, infallibile e geniale. Fortunatamente io ce l'ho. Se me lo chiedete, per favore, il segreto io vi risvelerò. Ma sì, ma dai. E diccelo anche a noi. E sono le tagliatelle di nonna Pina. E allora? È un pieno di energia, effetto vitamina. Oddio, oddio. Oddio, oddio. Pasquale, tu sei Calimero, nero con i capelli bianchi. Perché Calimero? Non lo so. Ma perché? Perché, sai, il pulcino della pubblicità, evidentemente. Un paio di persone già hanno mandato durante la nostra grandissima esibizione, la tua, che erano le tagliatelle di nonno Pino, uno ha scritto. Vabbè, non è carino, ma comunque ci sta. Luca Guardi, in 7 chilometri da Gerusalemme, è un doppiatore che diventa attore. Vi viene mai voglia di fare la sua stessa esperienza o l'avete già fatto? Abbiamo Marta da Milano. Io ho fatto 6 film che li mandano su, si chiamano I Dimenticabili di Rete4. Sono uno più brutto dell'altro, se vi capiterà di vederlo, di vederli da mezzo destro, mezzo sinistro. Abbiamo frequentato la fiction anche, abbiamo frequentato parecchie cose. Sì, abbiamo fatti, ovviamente destiniamo il nostro tempo maggiormente al teatro, al doppiaggio e a quant'altro. Di là c'è già Marco Guadagno che scalpita con la banda di attori e lui mi strillerà che non ho la mezza voce, eccola, questa qui, quella gli piace a lui. Ho capito, ma la gente pensa che la radio si è rotta, capito? Esatto. Non è manco questa, vabbè, ho capito. Pascolino, grazie. Grazie davvero, a te, ti ho distolto da una domenica tranquilla. No, purtroppo sempre una zero. Non c'è futuro in questo momento. In questo momento, ma può succedere qualsiasi cosa. C'è vabbè. Futuro, infatti, per quanto ti riguarda. Grazie. Pasquale Anselmo ai microfoni di Radio 24, grazie. E noi tra pochissimo torniamo insieme agli altri ospiti. Voice Anatomy, a tra poco. Voice Anatomy. Ecco, c'è un cambio all'interno dello studio, c'è un traffico che neanche ricordo anulare, oppure il nostro amico del traffico di Radio 24 ha raccontato. Marco Guadagno torna a Radio 24, a Voice Anatomy. Intanto c'è Gaia che sta sistemando la terza cuffia, che abbiamo tre ospiti che poi ci presenterà Marco. Torna in veste di autore e di regista stavolta. Accidenti. A volte ritornano. No, sì. Ma è giusto, insomma, la trasmissione vuole essere anche questo: veicola la voce in tutte le sue declinazioni, e la voce è anche questa: dare voce al teatro, che è la cosa intanto più importante, più difficile, esatto. Dove uno lo fa veramente per grande amore, ne parlavamo poi prima. Poi tu ne sai qualcosa, insomma, voglio dire, sono anni che, anzi, ti ringrazio di questo. Ma di che? Ma io ringrazio voi perché siete degli ospiti illustri, per cui... Che è meglio. Per cui ti tocca giocare pure te con la tua voce. Te ti è mai cambiata? Niente. In 30 anni... Io sono nato con questa voce. È rimasto puffo quattro occhi. Esatto, sì, sono nato puffo. Adesso però è direttore, per cui bisogna avere rispetto, che si arrabbia, esatto. Come che non ho la mezza voce. Mi presenti i tuoi ospiti? Allora, ti presento ospiti. Da e poi parliamo di cosa sta succedendo. Dalla mia destra verso sinistra, Antonio Conte. Ciao. E... ciao Antonio. Ciao Pino. Ciao. Alice Pagotto. Ciao Alice. Ciao. E vicino al microfono, mi raccomando. Ciao. E Giulia Santilli. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Sì, perché lei è la mia fidanzata, quindi sta studiando da buffetta, capito? Ah, ho capito, si attacca così. E uno ci prova. Però lei, io so, perché la conosco, è grande esperta di sport, questa fa, come si chiama? Il Ironman. Lei è un Ironman. Ma già ve lo abbiamo poi parlato. Sì. Te gonfia praticamente. No, in realtà ci siamo conosciuti perché io avevo doppiato tutti gli Ironman, no? E quindi... E quella hai fatto, lei è no? Venuta... È un fatto di interesse, esatto. Di interesse. Quindi... Non in palestra, no. L'ha trovata chiusa. No. Solo che non ci siamo coordinati bene perché io ne ho fatti 3 stando seduto perché dirigevo il doppiaggio. Lei ha fatto uno in 14 ore in piedi, correndo, nuotando e andando in bicicletta. Facendo ora, vero. Non so chi dei due, se lei si siederà accanto a me o se io dovrò correre vicino a lei. Vediamo come un va po a finire. Un po'. Loro invece sono degli altri bravissimi attori. Io con Antonio ci ho lavorato. E mi davvero? Faceva... Sì, era il capo di un ospedale. Folle, ed era l'unico serio, perché gli altri eravamo io, mio fratello Claudio Insegno, che saluto, che ha debuttato a Milano con Jersey Boys, un spettacolo dai, bellissimo. Davvero? Ciao Claudio. E poi c'era Mannella, Franco Mannella. C'era Marta Altinier, Sabrina Pellegrino, ma uno spettacolo, una follia. E lui era l'unico serio. Poraccio, ci provavo, non è provavo. Cioè, certo, però doveva mantenere e sostenere la follia nostra in scena. Pora creatura, è alto 2 metri. Pora esatto. Creatura. Invece, questo spettacolo 12. Prende poi il titolo. All'inizio ho visto un film di Michael Koff che la parola ai giurati, che erano 12 giurati, questo non ha nulla a che vedere. Non c'entra nulla. Queste amore, queste sono il bene e il male, l'amore, l'odio. Sì, questo è uno spettacolo, diciamo, sull'amore. Intanto dove debutta? Mercoledì? Al Tor di Nona, via degli Acquasparta, e saremo lì. Su Lungotevere, però, Lungotevere Tor di Nona. Sì, tra Lungotevere e Piazza Navona, praticamente, sì, sì. Quindi venite, noi abbiamo anche dei parcheggiatori abusivi che non possono farvi parcheggiare. Esatto. Se fosse lo ZTL. Un bellissimo teatro, che c'ha grandi tradizioni a Roma. Io ci vedrei, esatto, lavorare anche con Radopani dentro al Tor di Nona, piccolo, perché sono 150 posti. Sì, o meno. Sì, sì. Però bello, diamo forza al teatro, vi prego, vi sostenete, prego, il teatro povero. No, ma il teatro è bello, perché la gente poi arriva, perché con la ormai la follia del telecomando all'inizio, poi internet, poi questa globalizzazione, esatto, questo correre, cambiare YouTube, 3 minuti non de più, allora la gente pensa, io anche nei via che date cubito al teatro, invece vengono, si divertono, stanno bene. Cioè, aprono questa finestra da voyeur su un altro mondo e si godono. Poi dopo teatro possono farsi un giro per il centro di Roma, adesso è una bella stagione. Che la accompagni direttamente tu, sì, no? Cioè, facciamo un tour guidato e che, con le voci, sì, insieme al biglietto dello spettacolo. Esattamente. Sarebbe brutta come idea. No, abbiamo degli accompagnatori belle, abusivi anche in questo caso. Sì, abbiamo tutto abusivi. Le attrici sono belle. Lui è un omone. Le attrici sono belle perché ho detto, le scelgo brave o belle? Ho detto, proviamo tutte e due e ci sono. Di che riuscito. Parla? Chi me lo racconta? Quali sono i personaggi? Chi è? Allora, chi è? Chi è chi? Alice o Giulia? Chi allora, comincia? Allora, Giulia. Diciamo Giulia. Una cosa, io intanto do un input. Esatto, vai allo allora, start-up. Sono 3 personaggi. Un uomo abbastanza grande, 2 donne abbastanza giovani. Bene. Ma non abbiamo ancora capito se è lui, lei, l'altro, se è solo lui, se è solo lei. Stai bene, Marco. No. Stai bene, bene, bene. Però adesso io gente vorrei invogliarla ad andare a teatro. Perché tu c'hai bisogno prima di uno psicologo, uno psichiatra. No, la cosa bella dello spettacolo è che dura 1 ora e 5. Quindi voglio dire, anche fosse brutto, e non lo no, è, no. E non lo è, voglio dire, potete venire, e cioè dura poco, non fa male. Ma devono durare gli spettacoli un'ora e mezza. Devono durare. Uno deve uscire da teatro e andare a mangiarsi una pizza, esatto, e poi torna a casa, esatto, e cercare di trovare il parcheggio. Perché poi la gente, esatto, non ti perdona, esatto, che non trova il parcheggio, esatto, se è brutto. Non è tanto il resto. Comunque, guarda, io dico, è uno spettacolo sull'amore, mm-hmm, che in questo periodo secondo me c'è bisogno, e sulla protezione. Io che faccio, dirigo i film della Marvel, no? Che, esatto, loro devono proteggere il mondo. Tu sei Avengers per, esatto, antonomasia ormai. Esatto. Hai mi finito sono... Capitan America e quell'altro? Finito Civil War, sì, sì, sì. Sì, e sì, Thor, sì. Chi c'è? No, chi no, so no, Capitan questo America era... Iron Man? Solo Capitan America? Questo era uno solo, cioè non erano 2 film in 1, cioè non fanno ancora i package loro. No, però ho visto insieme loro due, no? Non pensavo. Sono loro due che arrivano, diciamo, a uno scontro, e in più c'è, entra un nuovo personaggio che riparte da zero, che se penso si possa dire. Ma perché non mi ha dato un supereroe? Fatti una domanda. Guarda, non l'ha dato ancora. Fatti neanche a me. Ma ho capito, però insomma tu, io conosco da 35 anni, sì, tu fai delle cose con lui che non mi permetterò mai, però... che sia quello, Dino. C'ho che doppi- sia quello. No, esatto, ci ho doppiato le cose meravigliose con lui, dall'esercito, esatto, di 12 scimmie, in poi a Scary Movie e chissà quanti altri. Sì. Però non mi chiama a fare un supereroe, perché sono giovani? Un pochino giovani. Ma io legge, ecco. Eccolo. Ciao. Ehi, come stai? Dai, passa la palla. Sto bene. Ehi, attacca. Attacca. Non ce la faccio. Attenzione. Va bene. Insomma, questo è lo spettacolo. Giulia, chi sì. sei nello spettacolo? Allora. Sapere fu. Ma non è il modo migliore per portare la gente a teatro. Noi facciamo marketing, ragazzi. Sì, no, beh, diciamo che comunque anche noi che siamo dentro non sappiamo bene chi è lui, chi è lei, chi è l'altra. Cioè, la cosa bella dello spettacolo per noi che siamo gli attori è anche questa. Si risolve però la storia alla fine. Sì, la si risolve. La risolve la gente? Ma è una cosa che si confronta con la gente? No. No. No. Ognuno tirerà fuori il motivo scatenante. Sono sì. 3 personaggi che, come dire, un po' si scambiano di ruolo, che... Si intrecciano tra di loro. È un gioco di ruolo sull'amore, insomma. Esatto, un gioco di ruolo, e perché poi l'amore ognuno lo vive come vuole, no? E quindi siamo, cioè, secondo me questa è la cosa bella. È uno spettacolo paradossalmente per genitori e figli. Sì, perché poi alla fine parla di genitori e figli. Prima parla... hanno trovato una cosa, Simona Izzo, arresti sentimentali. Addirittura. C'è una commedia di arresti sentimentali, quella loro. Però esatto. Non è male questo. Sì, sì, sì, sì, sì, anche vero. Questo mi sembra che cammini su quella strada. Eh sì, più o meno. Sì. A noi con Ali cosa ci può venire? Niente. Siete scarichi, niente. Sì, ma no, 12, mi sono venute in mente cose. 12. Allora, 12, in realtà 12 è, diciamo, il thriller dello spettacolo, nel senso che alla fine si capirà perché 12. Lo vedi? Posso, però do, diciamo, un indizio, no? Non lo do? Non lo do. Alice non lo vuole dare, Alice non lo vuole dare. Insomma, loro non vengono poi a vedere lo spettacolo. No, ma vengono, vengono perché hanno capito se che se dici... voi non ci avete capito niente, voi la gente invece pensa che sia divertente e che sia una cosa. Perché così, quando uno parla troppo velocemente o troppo didascalicamente di quello che sta facendo, molto probabilmente sta arrotondando qualcosa. Invece, quando restano questi meandri inesplorati, la gente è più. Esatto. Non sai che c'è? Gli dice all'oste come il vino, è buono, è ovvio che se uno viene a pubblicizzare se stesso, non può parlare male di quello che sta facendo. Ed è sempre difficile, infatti, parlare dei propri parenti bravi, dei propri figli bravi, del proprio testo bello. Dovrebbe essere un altro che telefona e dice: oh, scusate, ho visto le prove, ma lo sai che è proprio bello qua. Io posso dire però che dopo ieri sera ho tre bravi attori. Questo dopo due mesi di prove, l'ha capito ieri. Esatto, ieri sera posso dire che ho visto tre bravi attori. Vorrei donare l'8 per 1000 alla tua compagnia teatrale, non li voglio donare a nessuna chiesa. Francesca, grazie Francesca. Prendiamo tutto noi. Lei è molto seria, nel senso, però se dice, io posso veramente dire... non è ironica, tra l'altro... è ironica la cosa ovviamente, ma certo, però... tra l'altro ci sarà anche Pino. Ci sarò. A vederlo, sì, sì. Quando vieni? Proprio mercoledì alla prima? Ma che ne so, può darsi, sì. Può darsi. Vuoi. Certo, mia moglie, sei stato invitato. Sei stato invitato pubblicamente. La signora che corrisponde al nome di mia moglie, esatto, lei, e il bambino se rimane da qualcuno. Però vengo, vabbè, poi in ora, santo Dio. Se può fare, dai, lo lasci fuori il bambino. Se tu mi fai doppio un supereroe. Guarda, io ce la metto tutta, però non... Allora dimmi la trama di questo spettacolo con la voce del puffo quattr'occhi. No, così poi dopo la sa che si aspetta. Matthew Broderick. No, vabbè, dai, dai, questo spettacolo parla di un luogo non ben definito, dove c'è una sorta di carceriere che tiene in prigione due donne. Ah. E queste due donne sono in conflitto tra di loro. Sono in conflitto tra di loro perché una in realtà vorrebbe sposarlo e l'altra, la sindrome di Stoccolma. Esatto, e l'altra invece vorrebbe si può dire, no, si possono usare di vorrebbe farselo, esatto. Insomma, sì, noi diciamo una parola un pochino diversa nello spettacolo, però vabbè, vorrei fare. E quindi queste donne sono in conflitto tra di loro, ma in realtà lui è il loro carceriere, però è un personaggio strano perché si rivolge a loro. Non proprio non dire altro, ma queste sono evoluzioni, evoluzioni di sceneggiatura. C'è un'evoluzione che arriverà appunto a questo 12, perché ricordo che insomma noi quando 12 è un numero molto importante per tante cose, diciamo contiene l'1 e il 2 e abbiamo un uomo e due donne. Mamma mia, questa l'ha pensata ieri sera. Non lo sta secondo bene. Io andrei un attimo in pubblicità, dobbiamo andare. E 1 più 2 fa 3. Ciao. Tesi, antitesi e sintesi. No, va bene. Userò una mezza voce. Non so qual è la mezza voce che vuoi da me. Dopo te la faccio. È questa qui non si sente più niente. No, tu ti senti sempre. Sei autoamplificato. Ho capito, ma gente. Vabbè, chiedo scusa. Non sto senza voce, se no non fa più lavorare Marco Guadagno. Ci sentiamo tra pochissimo. C'è il traffico e basta. Ciao, pubblicità. Scusate, torno a me. Tra poco, voi sanato. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Voice Anatomy. Bentornati signori, 16:32 minuti e 18 secondi, Voice Anatomy. Il ridente Marco Guadagno sta cercando di raccontarci la trama che cominciava comunque a prendere forma stavolta. Esatto. Seriamente. Ma adesso lascio la parola agli attori. Lasciamo, e dopo torno alla fine. Va bene, caro direttore. Voglio vedere che dicono. Va? Allora senti con la mezza. Giulia, tu chi sei delle incarcerate? Quella che vuole? Quella che non vuole, cioè quella che vorrebbe sposarlo. Tu sei l'amore. Sì. Io diciamo io Maria, ovviamente non io Giulia, certo. ho rinunciato, sono rassegnata a questa mia situazione, a questa mia condizione di dover stare in questo posto con lei che condivido e vorrei sposare lui che nonostante mi faccia ovviamente paura, mi tratti ovviamente male. Ripeto, proprio la sindrome di Stoccolma, esatto. Che prende ai rapiti, no? Che si innamorano del proprio Per me è la mia vita carnefice. Sì, una via di fuga, lui. E invece Alice, che tu c'hai sto vocione, sei così esile. Io... Parla bene diretta davanti al microfono, se no sarà... Io, Anna, mi chiamo Anna. Sì. Sono appunto l'altra. L'altra faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia. E, diciamo che sì, anche lei ha questa volontà di... E fra voi due non succede di... niente, perché normalmente anche dietro... le sbarre può succedere. No, in realtà non c'è questo amore saffico. No, no, tra loro non diciamo c'era un amore saffico. Era per trainare le persone anche a teatro. C'è amore saffico, c'è tantissimo amore saffico. Anche un motivo. È pieno di nudi. Non facciamo nudi, altro praticamente. Sono anche due belle donne. Per esatto. Antonio Conte è un omone, ma esatto, insomma, può essere. Interessante, perché tu sei la parte carnale della... Sì, è più carnale, però nonostante tutto comunque sono entrambi i personaggi, sono due spazi mentali, quindi io stavo per dire una cosa prima che Marco dicesse 1, 2, 3, poi mi sono scoraggiata. Ma dilla, dai. È un po' un doppio sogno, a me ricorda molto Doppio Sogno di Schnitzer. Cioè, era la stessa cosa che pensavamo con Antonio mentre parlava Marco. Esatto, sì, parlavamo di questo. Non io so pensavo se più... più Doppio Incubo, però. Sì, ma è più girotondo, forse. Di... e già pronunciarlo le scappano due capsule. Sì, però è giusto. Conte, tu invece gestisci questa situazione. Beh, sembro il portiere dell'albergo. Esatto, sei un carceriere. Sì, io sono il carceriere di questo luogo, non luogo. Di queste... Ma prenderai posizione. Posizione, non voglio sapere quale, ma una posizione mentale anche tu in questo la spazio. La 31B ovviamente. E la 4C. Che sei il più forte. Che io so che a te piacciono particolarmente. Tantissimo. Per omaggiarti ho detto, dato che vado da fila. Per cui, vabbè, non potete rivelare altro, perché è un gioco veramente no, psicologico. No. Che veramente no. È uno spazio mentale, un viaggio mentale, sono personaggi... Non possiamo raccontarne più di tanto, vale, giusto che uno lo scopra, il teatro è anche questo. Credo che nel pubblico ci sia anche il piacere di scoprire già, effettivamente. Già aver detto quella cosa di Snitzel, già capito, raccontato. Ma era la cotoletta, lo Snitzel, non era sì, la cotoletta? Quella con l'uovo. Quella esatto, con l'uovo, no? Esatto. Marco, però capisci perché dopo esatto, io non così di queste cose. Tu che scuola artistica, da dove vieni, Alice? Io ho la stessa formazione di Giulia, cioè la Silvio D'Amico. Bella, la formazione solo basica. Nel, sì, io nel 2001, esatto, due anni dopo mi sono diplomata, due anni dopo Giulia. Che c'hai? 20, non hai anni tu ancora, quanti ma anni vogliamo hai? Vogliamo dirlo? Va sì, bene, 27. Sì. È finita. Grazie. È una discesa ormai verso gli inferi. Non me ne parli, guardi, non me ne parli. Ma beh, che ho 24 anni, già esatto, mi sento vecchio. Penso non guardatemi che sono più grande di voi due. Non sei più grande. Però. Quanti anni hai? Io faccio 60 a novembre. Vergogna. E lo so. Io non li faccio, non se vuoi dire, se non sembra che ci arrivo. Con due ragazze di 27 anni. Perché i due fanno 54 ed è già giovane. Pensa che tutti e due insieme sono già giovani. Mannaggia la miseria. Quando ti sei diplomata la Silvio D'Amico, Alice? Nel 2011. 2011. E con quale saggio? Abbiamo portato testi di Manganelli con la regia di Popolizio. Ah, Massimo! Con Massimone, sì. Massimo è il nostro startup di questo esatto, mestiere. Cominciamo insieme Massimo... con l'Allegra Brigata. Massimo è un attore comico straordinario. Però se non gli facevo da spalla io in Accademia non sarebbe mai entrato. Sì, no, ecco qua, diciamolo. Lo dico proprio tranquillo. Dovevi dirmelo prima. No, è così, tesoro. Cioè tu hai fatto il provino, lui la spalla e hanno preso lui, giusto? Esatto. Okay. Ma su che cosa, su quale testo lavorate? Credo un Dostoevskij. Sai, è successo però... più di 30 ma anni sogno fa. Ma Sogno di un uomo ridicolo, per caso? No, quello è un monologo. Ah, ok. Vedi? Io sono un uomo ridicolo, gli altri mi giudicano un pazzo e sarebbe una promozione se non mi considerassero lo stesso uomo ridicolo di sempre. Comunque, a me è successo veramente questo. Io nell'80 accompagnai una persona a fare l'esame di ammissione alla Silvio D'Amico, io facevo la spara, sono stato preso. A Do Trionfo mi scritturò con lo stabile dell'Aquila. Ah, sì. E quindi hai fatto anche tu la Silvio D'Amico? No, ho visto solo dove era, via Bellini. Ah, basta, basta. L'indirizzo. No, io pure cominciai così. No, via del Mastro, all'epoca stava via del Mastro. Al Vico del Mastro, sì, a via del Mastro. Anch'io accompagnai una persona, ma facevo già il primo anno di ISEF, avevamo fondato già l'Allegra Brigata con Ciufoli e compagnia. Accompagnai questa persona per fare Pinter una serata fuori e Trionfo e Paolo Terni si avvicinarono a me e gli disse: ma perché na fai te? non così, non in romano, e io fui molto contento, ho fatto, guarda, non posso, già sono all'ISEF, già vedi, se i ragazzi, compagnia, i giovani capiscono l'importanza delle spalle, allora, nel nostro mestiere, esatto, sarai la spalla d'ufficio di questa, esatto, di questa accademia. Poi tra l'altro nello spettacolo c'è un nostro caro amico, diciamolo, no? Perché sì, non lo c'è so. Stefano Mainetti che Stefano fa Mainetti le musiche. Musica, ma Stefano in questo periodo è veramente, cioè, devo sta dire, ovunque. Si è dedicato al teatro, bravo, ed è veramente talentuoso. Ho fatto sentire tre note a loro e subito ho detto sì. No, sì, ma sì, Stefano sì, è sì. straordinario. Che lui non vuole vivere in America. In America l'ho intervistato proprio una puntata di Pasqua. Lui ha fatto delle cose straordinarie. Solamente per fare musicista in America, che ha fatto molte colonne sonore negli Stati Uniti. L'ultima è stata sulla la Bibbia con 100 attori straordinari, ma ci sono state circa non so quante decine d'ore di musica, e l'ha diretta con la Royal Philharmonic Orchestra a Londra, dentro Westminster. Ma lui è straordinario, ha fatto il film di Ted Kotcheff, quello di Rambo, con Russell Mulcahy, quello di Highlander, insomma, però devi vivere lì, devi sì. stare lì. Lui invece è peggio di me, stanziale. E devo e Francesco Totti se volevamo promuovere da Roma. Esatto. Siamo tre. E devo dire che grazie a te, perché la sera sono venuto a vedere Frida. Sì, grande che musica. C'era anche Stefano. Sì. E ho detto, che stai facendo? Dico, guarda, dico, sto facendo uno spettacolo, volevo un tipo di musica. E dice, ma di che parli? Ti faccio io le musiche, fermo, ti faccio io le musiche. Lui è generoso, nel sì, senso molto, che non ti chiede sì, i soldi per sì, che, sì. diciamolo, proprio va sui diritti d'autore. Anzi, che mi ha dato anche lui, No, ma Stefano è straordinario, veramente, già, allora stanno pure le musiche. Come le fate? Pianoforte? Pianoforte, ha fatto pianoforte ovattato, cioè c'è una tecnica che usa lui con l'ovatta, che mette sui timpani, quindi come suona il padrino, i martelletti, si è messo a... esatto, i martelletti che suonano queste cose, e ha trovato un tema molto bello che secondo me è perfetto per lo spettacolo, che si alterna sul circense e sul malinconico, ed è molto interessante. Ah, e noi l'abbiamo distribuito, lo spettacolo che si chiama 12, volevo ricordare al pubblico. 12 al teatro. No. Pino, se parli a voce bassa mi fai addormentare, è più bello di una ninna nanna. Non gli dare, ma no, così dai ragione a guadagno. Ma dai, si può parlare a quest'ora a voce bassa? Dopo mezzanotte, sì. Dopo mezzanotte? Ma certo, adesso... Mezzanotte sono le 12. Già combattiamo contro il calcio, eccetera. Già ci combatto pure io contro il calcio. Anzi, oggi meno male, in questo orario io... Lasciami perdere. Sì, in effetti lasciamo stare. Sì, ho saputo. Lasciami perdere. Perché... Bella partita, però. Già divertente, partita. Se non sei della Roma né dell'Atalanta, era una bella partita. Io devo confessare una cosa pubblicamente a tutti gli ascoltatori. Ha segnato Totti, sì, ma devo confessare una cosa, che purtroppo, nel senso, io ho mia madre che, diciamo, mi alterno con mia sorella un weekend sì, un weekend no, e oggi era il turno mio, e mio papà, che tu hai conosciuto, sì, ma che adesso non c'è più, quando c'era la partita diceva sempre a mia madre, vattene a dormire, e appena mia madre si alzava andava via e la Roma vinceva. E oggi no, mia madre è stata sul divano tutto il tempo, e io che a mezzogiorno mi sembra brutto mandarla a dormire, stanca, ho detto, mamma, dormi sul divano, chiudi gli occhi, dai, addormentati. Oh. E lei mi faceva, ma perché, è finita. Povera mamma, se fossero così potenti le persone, dovevi spostare il televisore. Esatto. Vedete il calcio quanto. Pure prima mi ha chiamato una persona carina, è stata Pino. È la prima volta che mi imbatto in questa trasmissione. Devo dire la verità, molto bella. E devo dirti un'altra verità, se posso darti del tu. Prima mi stavi proprio antipatico, adesso mi stai più simpatico. Ed è pure, e sono anche della Lazio. Dico, ma già di partenza io devo stare simpatico perché ero della Lazio, già esatto, quello ci dovrebbe unire come dramma. E invece no, nonostante quello che sta, però mi sono conquistato un'altra persona. Vedi? Mi fate la cortesia di andare al Teatro Dottor Di Nona? Mi fate la cortesia di cominciare a frequentare, signori radioascoltatori, il teatro? Il teatro è bello, il teatro è veramente la cosa più bella del mondo, più bello. Anche è come un bel libro, è come una trasmissione radiofonica, quelle belle ovviamente sono evocative, stai lì, apri una finestra su un altro mondo, ti impicci degli affari degli altri, è bello. E portate i vostri figli a teatro, veicolando il teatro, non solo quello divertente, va bene il teatro che posso fare io, che può fare il Brignano, che può fare Battista, ma assolutamente, sì, va sì, bene sì, tutto, ma va bene pure Pirandello, va bene pure Shakespeare, va bene pure Schnitzel. Noi ci posizioniamo tra Pino Insegno e Schnitzel. che è una situazione un po' particolare. Fra quanto andiamo in pubblicità, 2 minuti, vero? E poi abbiamo l'ultimo blocco insieme, poi anch'io scapperò a teatro per fare la mia ultima. Voi oggi fate... sei l'ultima? Oggi è l'ultima, sì, dopo 3 settimane, 2 settimane io alla volevo Cometa, dire una cosa, 3 al Ghione, basta. Ma tu sei forte. No, volevo dire che comunque a tutti gli ascoltatori, che chi volesse venire a teatro, se si presentano in 2 al botteghino dicendo voi sanatomi Radio 24, così mi metti alla prova, esatto, così vuoi vedere quanto ti ascoltano. Avranno 2 riduzioni presentandosi in 2 al botteghino. Va bene, quindi vediamo. Sfida. E poi facciamo, è partita la sfida, vediamo. Io poi farò segnare tutti quelli che diranno R24, voi sanatomi, o Pino Insegno anche, va bene. E questo dipende, sai, da chi ascolta. Stanno in tutta Italia, io metto le mani avanti adesso. No, gli ascolti sono ottimi, perché parliamo di parecchie centinaia di migliaia di ascoltatori, esatto, dalle ultime rilevazioni, che sono diverse da quelle dell'audio e del televisivo quotidiane, per cui però va molto bene. Poi la domenica è una giornata veramente difficile, calcola che vai contro e incontri il calcio, però l'hanno scoperta e gli ascolti sono veramente belli. Non ci ho pensato io a fare questa storia per il mio teatro, capito? Che stupido. No, sostenere il teatro e poi non lo fai più. Mi sono scordato, mi sembra brutto che io quando ma sto qui. Ma tu non ne hai bisogno. No, ce n'è sempre bisogno. Io veicolo gli altri, quando si parla di doppiaggio, cerco sempre di fare 2 passi indietro e fare il conduttore, insomma, quello che cerca di coordinare una situazione e non parlare di se stesso, come la bellissima battuta di Groucho Marx, che una volta mi salvò la vita al Costanzo Show, perché insomma io chiacchiero tanto, e si capisce, no? E insomma parlavo molto in quella puntata, una signora si è alzata e ha detto basta, insomma sentiamo soltanto Pino Insegno, vorremmo ascoltare anche gli altri. Lì io imbarazzato trovai sta battuta di Groucho Marx e mi ha salvato, gli dissi va bene signora, ha ragione, basta parlare di me, mi parli un po' di lei, che ne pensa di me? Ovviamente non è assolutamente mia, ma è del grande Groucho Marx, come un'altra frase bellissima sempre sua, la quale poi si ispira Woody Allen, che dice abbiamo passato una bellissima serata, ma non era questa. È bellissima, è un'altra di quelle cose in cui no, bisogna farci i conti. Allora un altro blocco insieme, andiamo un attimo in pubblicità, c'è il traffico, come dice Cruciani, traffico, che cazzo va a fare al traffico. Fra un minuto torniamo per salutare i nostri ospiti, per salutare io voi, e poi di corsa starò attentissimo col motorino arrivare fino a Treatro. A Treatro. Vabbè, non sto bene. Perché vedi 12 Treatro, cioè, esatto. Il 3 che ritorna, che... niente, mi ha fatto la figuraccia. A tra poco, voi sanatemi. Sanatomi. Eccoci, stavamo parlando con il mio dorato tecnico del suono, quando fare il collegamento con l'amico Capuano per i nostri amici del calcio, visto che sto molto tranquillo perché io sono in scena quando la Lazio giocherà, per cui... Ah, a che ora gioca oggi? Male 6. Ormai sto spezzatino di calcio è veramente terrificante. Sì, ormai giocano a qualunque ora. Non mi piace. Non mi piace, è facile dirlo, essendo della mia squadra, dire non mi piace il calcio in questo periodo. Io ormai seguo il Teramo dove gioca mio figlio, per cui va bene così. Il mio derby è Teramo L'Aquila, non frequento più altri derby. È andato abruzzese. Sì, no, ormai sì. Arrosticini. Buoni, ragazzi. Questo è poi sanatomi, non è stomaco anatomi. Praticamente. Ma tu teatro quando torni in scena? Perché a parte quegli esercizi di stile meraviglioso che ho visto in scena con te, sì, la Modugno e Francesco Pannofino, che ma io volevo tornare, però diciamo questa operazione era talmente, come dire, importante sia appunto autorialmente che a livello registico, che diciamo era giusto che io non fossi in scena già dall'inizio. È stato pensato senza di me in scena. Beh, te lo sei pensato senza di me? Me lo sono pensato da solo in scena, sì. Anche se qualcuno gli altri dice ma perché non lo fai tu? Perché non lo fai tu? Io ho detto no. Se sei regista, un regista non può essere il protagonista. Esatto. Dai, esatto. E quindi spero presto. Vorrei trovare dei progetti interessanti. Potremmo fare io e te un testo Fratelli di latte. Di latta, esatto. Potremmo fare un Amleto io e te. Ecco un attimo i messaggi. Francesca è veramente un'affezionata. Dovresti... sì. Mary, Francesca, vieni qua, perché sei quella che manda più sms in assoluto. Che dice sono Francesca? Tanti. Che dice? La trasmissione telefonica più bella in assoluto. Ma non arrivano più cose cattive. Io ne ricordo sempre quella che ripeto da 35 puntate, quella signora meravigliosa che alla prima puntata, ha detto che bello, Pino Insegno per Radio la Domenica, così finalmente posso fare le faccende domestiche, accendo l'aspirapolvere che c'è la stessa voce. Io dico ogni wow. domenica. No, è bellissimo, questa la ripeto sempre che mi è piaciuta troppo. Per via della trasmissione Voice Anatomy la mia vita montana è cambiata, faccio finta di essere super stanca e mi convinco che devo riposare sul divano, così ascolto te e i tuoi bellissimi ospiti, Francesca. Magari Francesca fa entrare anche una seconda persona nella tua vita. Non so di dove sei, Francesca, se me lo scrivi. Beh, Montana. Montana, sì. Non so, può essere tutto. Può essere Francesca, pure ma perché non prendi, non so, un treno, una corriera e vieni a Roma al Tordinona a vedere 12 da mercoledì esatto. a domenica? Fammi fa bella figura, Francesca. Su. Dai, Francesca, fai vedere. Anche che... Carlo, eh? Anche. Non ci sta più, no, no, abbiamo perso Carlo. Perdo i messaggi. Vabbè. Vabbè, comunque. E quindi io spero presto di fare qualcosa, di... magari anche insieme. Perché poi in realtà, se ti parlavamo prima di Massimo Popolizio, no? Se ti ricordi, mi avevate proposto voi quando Massimo, no? andò via di fare la parte di Giulio Cesare. Avete chiesto a me di fare Giulio Cesare, certo, e poi... no. Non mi ricordo perché. No, mi pare che dissi di no perché voi mi avete chiesto solo la tournée e non di farla a Roma, una cosa o viceversa. Non mi ricordo che cos'è. Io avevo degli impegni che non coincidevano. Importante. Mi leggi anche tu le che tagliatelle cosa? Di Nonna Pina? Prima questo, abbiamo fatto questo con fortunatamente. Abbiamo fatto con Pasquale Anselmo, era bellissimo. E loro fanno il coro però allora le... Sì, lo do loro, dai. Coro greco, no, coro sì. greco, dai, assolutamente. Prego, dove è scritto coro? Facciamo il coro greco. No, dai. Aspetta, te lo do dall'inizio, vieni aspetta, qui. Aspetta, com'è? È così, com'è? Dobbiamo farlo. Eccolo qua. Chissà che cosa eccolo io qua. Posso dire. Non tutta, magari. Metti un'altra musica, magari, più dolce. Da dove devo partire? Da qua, dall'inizio, da qua. Ah, non tutta? No, tu falla, poi ti fermo io. Ah, mi fermi tu? Va bene. Ecco, senti che musica. Trovati il tuo Matthew Broderick, che è quello che vuoi tu. Ogni tanto mettici pure, magari. Ma te lo dico io che vabbè, ci devi mettere. Vai, dai, dai. Comincia Matthew. La sveglia sta suonando, ma fatela tacere. Perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho. Alzarsi così presto non è poi salutare. Ragazzi, prima o poi mi ammalerò. Invece, oltre alla scuola, 100 cose devo far. Inglese, pallavolo e perfino Latin dance. E a fine settimana non ne posso proprio più, che è peggio. Mi serve una ricarica per tirarmi su, ma un sistema rapido, infallibile e geniale, fortunatamente io ce l'ho. Se me lo chiedete per favore, il segreto io vi svelerò. Ma dai, e diccelo anche a noi. Sono le tagliatelle di Nonna Pina. Che è meglio. Io mi fermerei qui. Allora, abita a Teramo, Francesca. A Teramo, allora, ci Teramo gioca. Che è Nora. Mio figlio, cioè, ci gioca a te. Sì, sono Francesca, dopo Teramo. L'Aquila. Nora, benveni a Roma. Nora, lo spettacolo. Un altro la betto, 3 ore. Hai fatto. Dai, c'è pure Pino. Se vieni, conosci Pino da vivo. E lei c'ha pure un cane, si chiama Pino, come me. Conosci, non so Pino se l'ha chiamato apposta. Te lo fanno pure a te, sta cosa? Sei meglio da vivo, sei meglio da vicino. Esatto. In televisione vieni male. Ho detto, signora, non so, complimenti. L'altro giorno mi ha fatto Pino Insegna. Vieni qua, ha fatto Decida, no. Signora. Decida, uno di due. O Pino o Insegna. Beh, c'è questo problema ogni tanto. C'è Capuano al telefono? Capuano! Eccomi. Eccoti Capuano, che hai fatto? Una botta? Ma che succede? Telefono? No, abbiamo litigato col microfono. Hai dato una capozzata al microfono. Io, Pietro Lacorte, abbiamo... Dimmi. Ciao Capuano. No, dimmi ciao. Tu, Capuano, il dottor Marco Guadagno, grande direttore di doppiaggio, attore e quant'altro, accompagnato da 3 straordinari attori. Caro Capuano, sono molto sereno, mi dici un po' di risultati? Tu sei sereno ancora per 59 minuti, giusto? No, 69 minuti. 69 minuti, poi è già un numero interessante. Empoli e... Sì, e finirà tutto il sogno, ma io sarò in scena, per cui non saprò niente. Allora, ti do i risultati. Beh, intanto Dimmi. Ti dico che la Juventus non è ancora finita, ma siamo davvero agli sgoccioli, 4-0 sul Palermo e con questo direi che si è chiuso anche il campionato, più 9 sul Napoli, mancano 5 giornate. Beh. Si tratta semplicemente di fare i conti su quando ci sarà il successo aritmetico del quinto esatto. scudetto consecutivo. Che dire, Pogba, Cuadrado e Padoin, c'è stato un momento in cui il Palermo ha anche fatto soffrire la Juve, ma è finito tutto in fretta. Attenzione che si è fatto male Marchisio, fuori in barella, guaio al ginocchio sinistro e in questo momento è soprattutto Conte, esatto, che sta tremando. Poi c'è la Fiorentina che non ha ancora finito ma conduce 3-1 sul Sassuolo, Gonzalo Rodriguez, Berardi, sì. Ilicic e poi un'autorete abbastanza comica di Consigli. Questo ci dà una buona possibilità a noi poveri biancazzurri, ci dà una possibilità di avvicinarci lassù. C'è la possibilità di recuperare il Sassuolo, che è tre punti avanti. Vediamo cosa fa stasera poi anche il Milan, che c'è la prima di Brocchi a Marassi contro il Genoa. La corsa per l'ultimo posto in Europa League potrebbe effettivamente riaprirsi. Sì. No, invece ci sono risultati interessanti dietro. Poi ti dico di Atalanta-Roma. Risultati interessanti dietro perché il Verona sta perdendo 2-1 in casa con il Frosinone. Il gol lo ha appena segnato Frara al quarto minuto di recupero di una partita che per il Verona sancisce praticamente in maniera certa la Serie B, ma rilancia il Frosinone. Ieri si era rilanciato il Carpi, in guai al Palermo che ha perso con la Juventus, e quindi dietro c'è un posto per due, insomma. C'è un buon finale di stagione, esatto. L'altro punteggio, ed è definitivo, è 1-1 tra Udinese e Chievo, 0-0 tra Udinese e Chievo, insomma, pareggio davvero poco interessante, mentre invece è stata molto eccitante Atalanta-Roma, 3-3. Ho visto il primo tempo. Dignan, Nainggolan, D'Alessandro, doppietta di Borriello, e poi ha pareggiato Totti all'85esimo. Si sta confermando a suon di assist e di gol il signore. C'è stato un dopo partita abbastanza curioso, su cui parleremo molto in tutti i convocati il weekend, perché praticamente Spalletti e Sabatini hanno fatto a gara per dire che Totti non aveva fatto nulla. Come? Non aveva salvato la Roma, aveva forse fatto anche qualcosa meno di quello che poteva fare, non lo so, non riesco a capire, ma guarda, è un tema che ci stuzzica. Almeno gratificare, gratificare, also arrabbiati di default con lui per altri motivi che non ci secondo me la squadra ha giocato male a prescindere da... No, ma è stata una bella partita, l'Atalanta ha giocato molto bene, devo dire, però la Roma come al solito... Sì, ma è Totti, il discorso è Totti, ma perché, santa miseria, vabbè, almeno dare la dignità a un grande campione, te lo dice uno che insomma dovrei essere l'altra squadra, ma uno deve riconoscere oggettivamente. Vabbè, oggettivamente è stato un... Ma no, anche perché Pino, prima di queste due partite, perché Totti era già stato decisivo settimana scorsa contro il Bologna, in 2 mesi e mezzo Spalletti gli aveva concesso 14 minuti di campo su 4-1 contro la Fiorentina, quindi evidentemente lo trattava da ex giocatore, poi nel momento della difficoltà l'ha buttato in campo e Totti ha risposto bene. Se vuoi ti do anche un altro risultato che ci interessa da vicino, quello di Ranieri, il suo Leicester. Ah, che ha fatto? È stata una partita pazzesca, è finita 2-2, il Leicester vinceva 1-0 fino a 6 minuti dalla fine, era in 10 per l'espulsione di Vardy, poi in 2 minuti Carroll su un rigore assolutamente inventato e Cresswell hanno fatto il 2-1 per il West Ham, Leicester che è precipitato nel dramma sportivo, ovviamente, sportivo. Ma al 50esimo del secondo tempo è arrivato un altro rigore che c'era e non c'era e ha pareggiato con Ulloa, quindi in questo momento Leicester ha 8 punti di vantaggio sul Tottenham, ma deve giocare ancora, che però deve giocare ancora domani sera, e quindi un mezzo passo falso, però quel punticino alla fine potrebbe essere magari decisivo. Utile. Va bene, caro Capuano, un abbraccio grande a te e a tutti i tuoi amici e conduttori. Io ringrazio Marco Guadagno e la sua bellissima compagnia, vi ricordo 12 al Teatro Tordinona da mercoledì, se volete andare a nome di voi Sanatomi siete i benvenuti, perché avete anche la possibilità di avere uno sconto. Io vi ringrazio, scappo di corsa al Teatro Ghione, vi voglio bene, ci sentiamo domenica prossima a Voice Anatomy. Ciao, ciao Marco, a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao.